sto calmo, ma io sto calmo, è che io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista. Se ti avrei mezzo alle mani, a polpette ti farei a te, tu è curato becchino da parenzo, de. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Pronto, mi senti? Dottor Cruciani, mi sentite? Giuseppe, la mia ragazza è qua in macchina, mi rompe i coglioni, mette RDS, io voglio ascoltare solo la zanzara, solo la zanzara. Infatti la lascio adesso in questa autogrill e la mando a cagare. Cagare, cagare. Oh, la mia amorosa ha iniziato ad ascoltare la zanzara e adesso ogni volta che scorreggia mi manda un messaggio in cui mi dà anche la valutazione dell'odore. Ti prego Parenzo, falle un esorcismo. È tutto finito. È una merda. E voi, te e quel frocio di Parenzo, sostenete la merda. Sì ragazzi, ma fare sesso senza la dispersione del seme, l'ho fatto, ma ho un mal di palle che è una cosa inenarrabile. Non riesco a camminare, Parenzo, non riesco a camminare. Camminare, camminare. Con le palle piene. Andiamo avanti. Allora, caro David, il regista è sempre lo stesso, no? Sì, assolutamente. Mi sì. Pare, sì, dal, allora, caro David, dall'incipit. Io devo dire una cosa, devi essere carico stasera, devi essere molto molto carico perché sarà gola. Una puntata pazzesca. Ho lo mal so, di gola, mi hanno detto che hai mal di gola. Ho molto mal di gola perché i bambini il piccolo mi ha attaccato le placche adesso, in gola. Sì, d'accordo, per carità. E quindi non ho più questo problema, ho bambini problema. Piccoli che mi hanno attaccato questo, sì, nonostante io abbia fatto il vaccino, eccetera. Quindi ho parlato poco fa con Landini della sì, Fiom, il quale Landini, mi ha detto: guarda, se vuoi puoi anche non andare, tanto ti pagano lo stesso. Ti dico, ma ti facciamo una cosa, una cosa che stai molto male, di guardo malissimo. C'è una cosa finta, una cosa finta. No, io oggettivamente sto malissimo, quindi torno tra una settimana. Ma ho bisogno di andare che, in montagna. Tu sai che io sono sì, sai sì, che io sì. sono venuto. Ho bisogno a di trasmettere anche... da Cortina. Da Cortina direttamente, sì, da Cortina. Una volta si faceva. Ho bisogno di trasmettere l'aria fresca. Da Cortina devo stare lì, devo rigenerare. Perché tu sai sto che male. Una volta ho condotto con 39 di febbre. 39 di febbre. 39. Una follia, no? Voi sapete quanto io amo i tassisti, ragazzi. Voi sapete, però non è che posso mettermi. Aspetta, non posso mettermi il prosciutto sugli occhi. Appunto. Non mi posso mettere il prosciutto sugli occhi. Io amo i tassisti, penso che questa cosa va risolta dal governo una volta per tutte. Uber però, o non Uber, no, autorizzazioni o non autorizzazioni. Permessi o non permessi, la risolva il governo. Se sono in regola possono fare i tassisti, altrimenti partano dalle rimesse e seguano le regole. No, i tassisti, tu dici gli Uber, NCC, sì, NCC, ecco, Uber, sì. Eccetera, eccetera. Però, ragazzi, la cagnara di oggi, l'occupazione meno delle male. Strade davanti al PD, davanti al Parlamento, questo no. Io sono contro qualsiasi cagnara. Anche saluti fascisti ci sono stati. Sì, saluti fascisti, bombe carta. Bombe carta. Qualsiasi cosa. Io non so se sono solo i tassisti, c'erano anche gli ambulanti, estremisti di destra che sono stati arrestati. Non mi interessa, è una protesta che è stata indetta dai tassisti e dagli ambulanti. C'erano dei pazzi scatenati, degli imbecilli lì in mezzo che hanno sparato a zero. Bravo. Contro tutto e tutti. Bravo. Il che ci può anche fare piacere da un tu punto di dire vista. Tu devi dire la polizia intervenga per bene. Assolutamente. Come hai sempre detto. Le avanti. Manganellate sono in questo caso sacrosante, come per gli studenti a Bologna, anche per questi facinerosi. No, un momento. Ho sentito parlare da questa radio della Confindustria di manganellate a gente civile che protesta. Ma ho capito, in piazza. Quello è normale, Capanna, scusi, ma che vuol dire? Mi sembra molto bello quello che avvenuto. L'utilizzo ma in particolare, ma ne parleremo diffusamente, delle bombe carta, strumento ma che no, noi bombe utilizziamo, carta è una cosa scena. Meraviglioso, costano pochissimo e fanno un sacco di danni. Ma ho capito, spiego, ma è una cosa, spiego in 40 secondi. Ma è una vergogna. La bomba carta, meglio ancora la bomba Molotov, perché si prepara con più facilità. Beve avete la Coca-Cola, quella di vetro possibilmente, la buttate fuori il contenuto della Coca-Cola, dentro ci mettete un po' di alcol, non troppo, non serve, basta riempire fino a metà, un piccolo stoppino di cotone imbevuto di alcol, accendete e lanciate, il danno è assicurato, spaccate tutto, è assicurato. Negli anni 60 si usava molto questa tecnica. Ma non va bene. Lì, con i compagni Katanga andavamo all'assalto delle università, dei partiti, specie quelli di governo, Democrazia Cristiana e Socialisti in testa, scappavano come conigli. Ma quello che capito. È avvenuto oggi è meraviglioso. Ma no. Dall'Umbria sto testé arrivando nella capitale. Con i soldi del vitalizio, qua, sempre. Ovviamente. Quando sento odore di battaglia in strada, Mario Capanna c'è, arrivo. Ambulanti contro la polizia. No, ma mettiamo tutto. Assisti, ambulanti, non si capisce un cazzo, ma non è che ce l'hanno scritto in testa. Tassisti, ambulanti contro la Bolkenstein. Amici, perché non dici, non evidenzi le parole, la Bolkenstein. Ragazzi, possiamo dire che è una direttiva sacrosanta. Anche a me mi avete rotto i coglioni. Basta manifestazioni, avete rotto il cazzo. Ma manifestazioni, va bene, via manifestazioni. Dal Parlamento, via dai partiti, non rompete i coglioni alla gente che lavora per strada. Basta con questa roba qui. Combattete la vostra. E per protesta avete i vostri... la zanzara non andrà in onda. No. Oggi. Ma perché? Avete i vostri lobbisti in Parlamento, ne avete anche tanti, nei partiti soprattutto del centrodestra, ma non solo nei partiti del centrodestra. Fate le vostre azioni di lobby senza rompere i coglioni alla gente che lavora. E Molodo, la Raggi che li appoggia, fumogeni. Scusa? Che c'entrano i fumogeni? Adesso parleremo anche di quello. I fumogeni, che c'entrano i fumogeni? Io ho visto fumogeni. Ma che stiamo allo stadio? Pare ci fossero anche degli ultra. Ragazzi, è una vergogna. Chiamatemi pure, attaccatemi pure, non me ne frega niente. È una vergogna quello che è accaduto. Punto e basta. Lo dico per gli studenti di Bologna, lo dico anche per questi facinerosi davanti alla sede del PD, ma potevano essere anche davanti alla sede di Forza Italia o di un altro partito, davanti alla sede. Giusto. Che cosa urlano? Cos'è questo caciara? Cos'è questo casino? Cos'è questo urlare? Questo sparare? Ma che vergogna, dai, Molotov, basta. Gente che aggredisce i giornalisti. No, non te famo le interviste perché tu sei serbo. Oh, ma che è? Cazzo, ma non bevo il culo, ho 80 anni, bravi siete, bravi, siete una massa di fenomeni siete. Ce lo ricordiamo. Questo era un cretino con un tatuaggio sul collo che ha cominciato a sparare parole contro, solo parole, contro i poliziotti. Col casco ve rompo il culo pure io, state col popolo, senti. State con noi, state col popolo, i cittadini, non rompe il cazzo, lo sapete. Mamma mia. Quest'altro è un tassista. Dico solo tre parole, un governo di abusivi che legalizza altri abusivi. Vogliamo andare al più presto a votare. Ci siamo stufati di quest'Italia che va a rotoli. Siamo rimasti tutti senza soldi perché questo sciopero ci costa. Altri ambulanti o tassisti contro la polizia, vai. Ce l'hai i figli? E allora se c'hai i figli, vabbè, se c'hai avete dei figli, ce l'hai i figli? È una carogna, sei tutti cornuti, tutti amori. Sei una carogna, cornuti. Ma che ne so, con i giornalisti, con la gente che stava là a riprendere. Hanno pure picchiato uno di Gazebo, sembra. Gli hanno dato uno schiaffo. Sti pezzi di merda ci hanno rotto il cazzo. Ancora ambulanti o tassisti, perché lì non si capisce niente. Di questi pezzi di merda, di loro. Di il loro. Popolo italiano, venga qua. Allora. Il popolo italiano si è rotto le scatole. Si è rotto le scatole di essere preso in giro da sta classe dirigente. C'hanno il potere, te decide perché c'hanno i numeri. Ci hanno preso per culo. Adesso a me mi fa impazzire questi qua che si autoproclamano esponenti del popolo italiano, rappresentanti del popolo. Il popolo italiano ha rotto il cazzo. Ma chi? Popolo italiano chi? Ma rappresenti al massimo una parte di ambulanti. Non so chi erano, se ambulanti, chi fossero, ambulanti o tassisti. Sti pezzi di merda ci hanno rotto il cazzo. Poi contro Renzi, che mi pare che adesso insomma conti anche. No? Non c'è meno. Più. Sì, non c'è più formalmente, poi conta. Vabbè, sempre. Sì, però non è nella plancia di comando, diciamo. Beh, naturalmente, visto. E qua gli insulti all'ex segretario del Partito Democratico, ex presidente del Consiglio. Ammazziamoli tutti, sti politici. Cazzo, ammazziamoli tutti, sti mille politici. Sti pezzi da merda. Ragazzi. Tassisti, amici miei, allontanatevi da questo schifo. Allontanatevi, vi fa male questa roba qui. Immagine zero, sotto zero, sotto zero. E Grillo dice: i tassisti hanno ragione. I tassisti hanno assolutamente ragione. Hanno assolutamente ragione. Noi siamo assolutamente a fianco di loro, no? E in 24 ore non si può cambiare una legge mettendo in concorrenza così un settore pubblico. Anche la Raggi dice: noi siamo con i tassisti. Noi ovviamente siamo con voi, ma voi lo sapete, cioè per noi il servizio di trasporto pubblico non di linea è fondamentale. Anche è il biglietto da visita della città. Ma perché abbiamo fatto sentire la Raggi? Sembra chiaro. Quello della Raggi è pazzesco. No, ma sembra chiaro pazzesco. Che il vero governatore di Roma, cioè il vero sindaco di Roma, non è la Raggi. Il vero sindaco di Roma si chiama Beppe Grillo, che governa Roma, non so da dove, da Genova, da Bibbona, là, come diavolo si chiama quel posto di mare dove va. Cioè, il vero sindaco di Roma si chiama Beppe Grillo. Cioè, ogni volta che la Raggi deve prendere vero, una decisione... in parte è così. No, sì, ma è così. Sì, sì. Prima sarebbe stato Casaleggio se fosse stato vivo, perché è evidente che lui ha voluto la Raggi. Ma il vero sindaco è Grillo. Cioè, qualsiasi decisione importante, non quelle amministrative piccole, che deve prendere la Raggi, come dice Sgarbi, no... Pronto? C'è Beppe? Pronto? Dove sta Beppe? È così, c'è il vero sindaco lui. Ah, poi Grillo dice: Roma non è così malandata come sembra. Cioè, prima che della Raggi era una merda, uno schifo, una città distrutta, sì, una questo, città però. Devastata, una città in preda alla mafia, eccetera. Roma non è così malandata come sembra. Senti. Se tu vieni qua e sei attento, se sei bombardato di notizie che Roma è sporca, Roma non funziona, più o meno la tua percezione cambia. Poi in effetti è una bella città, secondo me. Non è malandata come sembra, dice. Non è così malandata. Però i cittadini si lamentano. Loro sì, è giusto che si lamentino. Pagano la tasse, pagano le tasse, il 30% in più delle altre. Mamma mia, questa è veramente una cosa vergognosa, perché quando tu sei al governo, in pochi mesi la città non è così malandata. Se ci fosse il sindaco di un altro partito, è una fogna a cielo aperto, è uno schifo, la monnezza non funziona, il traffico è uno schifo. Ora sono i giornali che creano una percezione, capito? Detto da Grillo, i giornali. Veramente sarebbe da mandarlo a fare in culo Grillo, in questo caso. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. La Zanzara. Perché molti dicono: ma è un mille proroghe, ma sti cazzi del mille proroghe, tu lo fai chiamare come da fare. Sono moderati un cazzo. Adesso cominciano a chiamare, hai detto i tassinari, avete rotto il cazzo. Sì, lo dico, lo ripeto, avete rotto i coglioni. Dopo va bene la protesta un giorno, avete fatto capire quello che volete, eccetera, eccetera. Basta, non rompete il cazzo alla gente per strada, non occupate le strade, tornate a lavorare come è normale che sia. Su, la gente si è rotto i coglioni. Io ma sono poi, sempre dalla parte vostra. Ma no, però ma poi basta, che c'entrano dai. Con voi tassisti? Cosa c'entrano quelli di gli Forza ambulanti. Nuova? Ma poi gli ambulanti. No, ma gli vabbè, quelli può ma essere che vuol che dire gli ambulanti, i tassisti insieme, tutti contro il governo. Ma i militanti di Forza Nuova cosa c'entrano? Cosa c'entrano? Vabbè, quelli si sono uniti, magari quelli non lo sanno, no? Cioè... Ma comunque, quelli... Sgarbi, ieri, a proposito di un argomento sempre molto caldo alla Zanzara, che è il sesso, Parenzo, ha espresso una sua teoria particolare. Sentiamo. Su quello che è, diciamo, il clou della relazione sessuale tra uomo e donna, secondo lo Sgarbone. Cioè, il massimo, il top. No, tanto per non parlare sempre di queste cose, i tassisti, sì, tanto è giusto, sempre giusto. Lo stesso. Questi non vogliono Uber, questa è la realtà, non vogliono la concorrenza di Uber. Mentre qualcuno al governo cerca di, scardinando un po' le leggi, cambiando un po' le leggi, di far passare Uber. Dovete avere la responsabilità di dire: bene, mettiamo Uber allo stesso livello dei tassisti e allora poi affrontate la protesta vera, non i sotterfugi. Vabbè, non mi vale però di parlare di queste cose nel dettaglio, perché sono una rottura di coglioni pazzesca. Meglio Sgarbi al sesso. Ho ricevuto molti pompini. E ti facciamo ecco. Scoprire delle pompini, sì. Perché poi la voluttà massima del maschio forse è quella, la sottomissione, però vale anche nel mondo omosexuale. No, la cosa più bella per un uomo è Pompino. Mi stupisce Vittorio. Pompino, vabbè, è cosa... no, è così. No. Le grandi verità di Sgarbi. La voluttà massima di un maschio è il pompino. Ricevere un pompino. Beh, diciamo che non è una teoria nuovissima, diciamo, no? Però è vero, ha una sua verità, perché è anche una cosa poco impegnativa, no? Cioè, questo si può dire. Beh, sì, per l'uomo è poco impegnativo, su questo non c'è dubbio. Cioè, l'impegno è minimo in quel caso, no? Oh, nuovo format, Cecchi Paone contro Giordano sull'immigrazione. Ovviamente era dalla vostra parte. Per forza. Cecchi Paone, tendenzialmente a favore degli immigrati, tendenzialmente contro Giordano. Vai. Tu vuoi mandare le donne italiane a morire a raccogliere i pomodori? Oppure lasciamo i pomodori marcire. No, non so se avete ascoltato bene, dovendo scegliere mando non le donne a raccogliere i pomodori, si discuteva naturalmente della manodopera, degli immigrati, eccetera. Certo. Dovendo scegliere ci mando gli immigrati a morire sotto il sole, diceva Cecchi Paone, non le donne italiane. Mamma mia, ragazzi. Allora andiamo in provincia di Messina, Nicola, vai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Dico, volevo dire, tutta questa caciara che stanno combinando i tassisti, loro hanno anche le loro sante ragioni, io sono un agente di commercio, quindi siamo affogati da delle tasse, però, dico, c'è Uber, noi abbiamo i centri commerciali, io vendo piastrelle, io sono i centri commerciali, non è che vado sotto il Parlamento a buttare le carte, la bomba carta. Appunto. Cioè, me la devo subire e cerco di organizzarmi, cambio la mia tipologia di lavoro. Io capisco che è difficile per loro riuscire a lavorare oggi con una concorrenza del genere, però è chiaro che sono aizzati dalla destra, da queste forze io non politiche. So da chi sono aizzati, non so chi abbia buttato le bombe carta, probabilmente non sono stati i tassisti, sono stati questi qua. Ma di Forza Nuova, no, ne sono stati fermati due, sono tutti sti bastardi, sti facinorosi, insomma, voglio dire, ma vale per la destra e per la sinistra, Cruciani. A me non me ne frega niente se uno butta una bomba carta o se uno fa una manifestazione non autorizzata appunto. Davanti al Parlamento, davanti a una sede di partito, la cosa va sgomberata con i manganelli e con la forza. Poi, con vedere te. Qualcuno per terra manganellato, a me non me ne può fregare di meno. È evidente che bisogna evitare la violenza, come dire, no, inutile. Ma se uno sta assediando la sede di un partito, non me ne frega niente, se è il PD o no. Ma esatto, ma basta, deve essere fermato con la forza. Ma scusami, ma un sindaco, io adesso non voglio prendermela con la Raggi per forza, ma lo dico, ma un sindaco. Ma perché c'entra? Quello esprime una posizione politica. Cazzo, ma un sindaco può solidarizzare con i tassisti? Che però da giorni stanno bloccando la sua città, Roma? Ma è normale, secondo te? Ma ragazzi miei. Peppe Grillo ci sta marciando. È stata votata dai tassisti. Ho capito, ma gli sta bloccando la città da 7 giorni, quei turisti, le cose. Ma quella se ne fotte. È normale secondo te che uno che governa una città dica no? Bene, hanno ragione, le proteste sono giuste e gli bloccano la città per 7 giorni, ma ti sembra normale a te? Stefano Macerata, vai Stefano, ma grazie. Ma in che mondo Nicola. Vivete? Nella rete voi? Nella rete? Tutto Stefano viaggiate... Macerata. Eccomi. Dimmi. Allora, tre cose velocissime. Condanna ferma naturalmente per le io giro l'Europa, in tutte le capitali europee ogni 30 secondi passa un taxi. In Italia per trovare un taxi ci vuole un'ora. Vabbè, ma questo non dipende dai tassisti, non ci sono perché non c'è concorrenza, primo. Seconda cosa, conosco personalmente taxisti con licenza che lavorano pure con Uber, ma nessuno lo dice oggi. Taxisti con licenza che lavorano pure con la piattaforma Uber. Che ne sai, Uber. Fai il tassista tu? No, non lo faccio, ma lo so perché ci vado in taxi. Me l'hanno detto, terza questo cosa, sì, qualcuno terza cosa, cioè per guadagnare di più, dici? Certo. Comunque, mancanza di concorrenza e quindi devono stare vabbè, zitti. Vabbè, dai, questa è una vecchia questione, okay. Dai. Poi... Terza cosa. Io ero rimasto a Grillo, al Movimento 5 Stelle, che erano, sai, internet, si voterà online, si mangerà online. Cioè l'innovazione, la tecnologia, online, dici. C'è Uber con un'app che ti viene a prendere dove tu sei e la Raggi mi si mette vicino al taxista che devi telefonare a momenti con un fax. E questa cosa per me non c'è una contraddizione in questo, però bisogna dire che da sempre forse un po' contraddittorio con questa anima, diciamo, del web dei 5 Stelle, da sempre il Movimento 5 Stelle ha appoggiato la battaglia dei tassisti, sì, le corporazioni, sì, contro le multinazionali di Uber, eccetera eccetera. Questo è sempre stato così, eh. Angelo Roma, vai. Angelo, dimmi sì. Angelo, io volevo dire, non per mandare a fare in culo Grillo, ma soprattutto quei fascisti di Salvini e della Meloni. Come si fa ad attaccare i poliziotti che loro presumono di difendere? Chi ha attaccato i poliziotti? La maglietta, chi quel fascistone, e prendono bastonate, bombe, carta, legnate per fare il loro dovere. Ma cioè, non si vergogna? Non c'è un comunicato stampa che dice siamo solidari con i poliziotti? Stavolta non conviene, questo, perché vanno questo, contro il governo. Questo è interessante da vedere. Cioè, tu dici, questa volta i partiti che appoggiano i tassisti, sì, gli ambulanti, sì, eccetera, non prendono parte, non fanno comunicati, bravo, o dichiarazioni, giusto, e quando vengono, quando no, hanno assaltato la polizia. Ha ragione, sì, c'è di più. Gasparri, un nome a caso, ma non lo dico, appoggia per polemica. Appoggia, no, i tassisti. Non solo, oggi stesso ha detto, sono di nuovo sceso in piazza al fianco. Guarda, c'ho qui il tweet di Gasparrone. Aspetta, su Gasparri vi devo dire quest'ultima cosa. Ma dai, Gasparri, su. Mi deve chiedere, non lo dovete fare più venire. Perché anche oggi sono sceso in piazza. Guarda qua. Vi ha trattato male. Vabbè, ma quello chi se ne frega. No, però anche oggi sono sceso in piazza per dire no alla Bolkestein, no al governo che tutela i poteri forti. Di qualcosa anche sui poliziotti che sono stati attaccati da questi stessi manifestanti. Pieni, Gasparri, avevano le uova, cioè, tutte le divise piene di uova. Di diciamolo, qualcosa. Gasparri, a favore dei poliziotti, contro quelli che assediavano i partiti. Dillo. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Siamo il top, siamo il top, siamo il top. Ma va su. La Zanzara. Semplicissimo. Se volete parlare dei filetti di merda di Sgarbi, o volete indicarci qual è il miglior combustibile per i rom, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 0024. Se invece volete parlarci delle emorroidi dei froci, o volete chiamare negro qualche profugo, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 7171 701. Siamo al top. Malattia vuol dire che la mattina quando si sveglia la prima cosa che pensi è quella, è la figa. Parenzo, basta coi muri. Basta con i presidi armati, la minoranza silenziosa è con te, coloni musulmani nel ghetto di Roma, ai Parioli, a Prati, basta, basta, siamo tutti fratelli, prendiamoceli in casa, Parenzo, siamo con te, siamo con te. E in questo caos, caro David, tra tassisti, ambulanti e gente di Forza Nuova in piazza a protestare contro il PD, contro il governo, contro tutti, ti dirò, arrivano dei messaggi di fuoco contro di noi dicendo che i poliziotti dovrebbero manganellare non la gente per strada ma gli esponenti politici del Partito Democratico. Chi lo, cioè, dice tu questo, scusa? Ma è un sacco di gente, adesso fra poco ti farò ascoltare dei messaggi che mi sono arrivati. Bastardi, figli di puttana, noi. Appoggiate i poliziotti, appoggiate il governo, cioè, e non governo? Quelli che stanno per strada. Ma che governo? Non c'entra nulla, noi del governo ce ne sbattiamo i coglioni, non vogliamo i casini per strada con i fumogeni, con la gente che assedia i partiti. No, ma scusa, io lo dico con gli studenti. Abbiamo criticato i Black Bloc che hanno sfasciato ogni volta che fanno vetrine. Dovremmo usare un metro diverso. Vabbè, questi per questi non hanno, qui. Questi non hanno sfasciato le vetrine. Hanno, eh? Divelto, come no? In centro a Roma oggi anche, ci sono, sì, passato, hanno divelto tavolini dei commercianti che stavano dando da mangiare dei turisti. Male, molto male, hanno molto male. Assalito manganellate, il PD. Ma manganellate. Per me poteva essere anche Forza Italia. Manganellate, appunto, manganellate, non è che manganellate, no, manganellate, sì, sempre sì, con manganellate, parsimonia, ma insomma. Comunque in tutto questo casino spunta il generale Pappalardo, amico mio. No. Affascina questa persona, generale Pappalardo, compositore, ex generale, ex, no, uno quando è generale è generale, sempre generale, generale dei carabinieri Pappalardo, uno dei capi dei forconi. Senti, senti che dice. Hanno preso questo Osvaldo Napoli, lo hanno bloccato per arrestarlo. Osvaldo Napoli ha la grande colpa di non aver detto io non sono in carica e ha fatto credere, o ancora l'immunità, che fosse un parlamentare in carica ed è stato arrestato. Io che passavo lì per caso ho detto ma che sta succedendo? Se avete arrestato una persona, siccome il codice di procedura penale lo prevede che il semplice cittadino intervenga e arresti qualcuno colto in flagranza di reato, è previsto dal codice. Ho detto data io alla forza pubblica perché la forza pubblica procede. I parlamentari meritano l'ergastolo. Ci sono delitti contro la personalità dello Stato, cari amici, che prevedono l'ergastolo. L'ergastolo per questi delitti. Usurpazione di potere pubblico, potere politico, associazione a delinquere, attentato ai diritti politici del cittadino. Ho dato il sangue per questo paese, adesso lo vedo ridotto così. Ma il generale Pappalardo, ragazzi. Ma quale generale? Ma perché non fate intervenire? Cioè, quando uno dice queste cose qui, con tutto il rispetto per le autorità politiche, civili e militari di questo paese, però l'unico intervento possibile non è quello della forza pubblica che arresta i parlamentari, è quello degli infermieri. Cioè, siamo a livello di infermeria, lo dico con tenerezza nei confronti del generale Pappalardo, che mi è pure simpatico, mi era simpatico, ma ci vuole l'intervento veramente dell'infermeria, l'intervento della ASL, l'intervento dei medici curanti, perché siamo a un livello di gravità assoluto. Questo è il paese per il quale io ho lottato per 40 anni. Io da giovane tenente sono venuto all'Accademia Militare di Modena a dare il mio sangue per questo paese e alla fine devo vedere lo Stato ridotto in questa maniera. Viva il popolo che si sta dando da fare, sono movimenti di liberazione popolare. Osvaldo Napoli l'ha chiamato delinquente. Non sono delinquenti, caro Napoli, sono padri di famiglia. Io l'ho acchiappato uno, dico scusi, ma perché lei l'ha fatto? Lo sapete cosa mi ha risposto? C'ho moglie, quattro figli, il fratello che si è ammazzato perché l'azienda è fallita. Io non porto il pane a casa! Generale, che cazzo vuole da me? Che devo morire! Allora, Sergio da Milano, vai Sergio. Era, volevo dire una cosa al volo. Sono veramente stupito del comportamento dei 5 Stelle che difendono i taxi, quindi a discapito della rete. Loro vivono in simbiosi con la rete. Uber è un servizio che ha contribuito ad abbassare le tariffe e questa difesa dei tassisti, che peraltro sono non tutti, ma quelli che li guidano sono molto violenti, è veramente una cosa fuori dal mondo. Io ricordo solo una cosa, che per la stessa protesta contro Uber circa 4-5 anni fa a Roma, alla stazione Termini, hanno massacrato di botte un autista. Questi sono i tassisti. A chi ha massacrato di botte un autista? Vabbè, adesso qui non si vuole neanche generalizzare. No, ragazzi, adesso non è che si possono dipingere i tassisti come una categoria violenta, tutti, eccetera. Ma ci sarà qualcuno, come ci sarà qualcuno in mezzo a Uber, che fa. La gazzarra di oggi, anzi, 5 giorni di gazzarra, quella di oggi è stata, come dire, l'apice. Vabbè, massimo. Allora, Sergio, cosa vuoi dire? Non ho capito. Non si deve più ripetere. Voglio mettere in risalto l'ipocrisia. Vabbè, ciao, Ezio stelle. Pescara, vai, Ezio. 5 Stelle. Pronto? Dimmi. Semplicemente volevo ricordare una cosa. Io questa mattina sono stato a fare una ricca pisciata, sì, lì dove è stato ammazzato il porco attentatore di Berlino a Sesto San Giovanni. Cioè, non ho capito, Ezio, tu sei venuto da Pescara, sei arrivato da Pescara a Sesto San Giovanni per pisciare sul luogo dove è stato ammazzato l'attentatore di Berlino? Sono andato lì dove è stato ammazzato il porco maiale. Ma sei andato, ma quello non c'è dubbio, sei andato apposta lì, non ho capito. No, sono passato. Passavi da Sesto San Giovanni a passare a pisciare la proprio, scusi, mi faccia capire, lei proprio in quel momento le scappava, cioè lei è passato apposta, è andato apposta la mattina. mattina pisciamo tutti. Tu, carissimo amico mio, dici che pisci sul lavandino. Io invece sono andato a pisciare dove è stato ammazzato il porco maiale. Io nel water in genere. Guarda Ezio, che Parenzo piscia tranquillamente nel water. Io non ho mai pisciato nel lavandino, però dico che sta diventando una moda rivoluzionaria, anche spinta da questa trasmissione. Siccome qui non ci si capisce più niente. Indico un luogo sicuro, lì dove è stato ammazzato il porco maiale attentatore. Sì, perché questa sottolineatura? Una pisciata ci ho fatto sopra lì. Ma scusa, non era circondato? Non era... Che pisciata! Scusa, Ezio, ma dove è stato ammazzato il porco? Sì, ma lei ha una vita normale, anche sessuale? Cioè, ha una normalissima, una vita normalissima. No, non sono malato di prostata, caro pappagallo. Quindi lei ha una vita normale. La mattina, siccome io lavoro, mi alzo. Cioè, quindi ha una moglie anche. Come? Ha una moglie, ha degli affetti, insomma. Certo. E come mai questi però affetti? Passavo per Sesto San D'accordo, Giovanni. D'accordo, deciso di farla. Chiaro, no, ma la cosa strana è, oltre questa pipì che lei dice di aver fatto all'aperto. Immagino che abbia anche delle prove. Anche rivendicarlo radiofonicamente davanti a milioni di ascoltatori. No, questo è giusto. Avendo una famiglia serena. Io piscio in piazza la mattina, va bene? In piazza lei proprio. Ecco, arrivederci. No, ma scusa, ma che arrivederci? Fermo un attimo. Ezio, non ho capito. Niente. Jacopo da Roma, vai, Jacopo. Salve. Sì. Volevo fare una piccola sul fatto che è successo a Roma. Che Roma, capitale d'Italia, meta ambita di milioni di turisti, non si può permettere questo disagio che è successo con i taxi. Vabbè, Jacopo, non è che fai il politico, devi fare una dichiarazione ufficiale. Qual è il punto? No, è una riflessione. Ma quale riflessione? Ma dicono parolacce e quant'altro. Ma non diciamo nessuna parolaccia. Accettata, e qual è sta riflessione? Spiegami. È vergognoso questa cosa. È una riflessione questa qua. Va bene, bravo, però giusto che lo dica. È una riflessione. È vergognoso che ci siano gli scioperi dei taxi alla città bloccata. Esatto, che riflessione? Esatto, perché uno che è paralizzato in una città che è la capitale e deve prendere l'autobus, e anche ho visto cittadini volontari che attappano le buche, ci devono dire ora che dobbiamo fare, nel senso, se dobbiamo attappare le buche dobbiamo andare a piedi e dobbiamo pagare anche le tasse, le multe. L'hai fatta la riflessione? Questa è la riflessione? Eh? Sì. È uno sfogo forse, è più che una riflessione. Non è uno sfogo, né una riflessione. È così, non so che hai detto, francamente non so che hai detto, però va bene lo stesso. Maurizio da Roma, vai. Maurizio, dimmi. Buongiorno, buonasera. Volevo dare il mio punto di vista sulla mia esperienza di fruitore di taxi in giro per il mondo. Insomma. Sì, dimmi. E il motivo per il quale a Roma, a Milano, perché io vivo a Roma, il problema è che i tassisti non hanno mai voluto aprirsi al confronto con l'utente. Oggi tutte le applicazioni, esiste un'applicazione a Roma e Milano che si chiama iTaxi, che utilizza taxi normali, è un'applicazione fatta da Mercedes. Bene, hai poi la possibilità di pagare e di dare una valutazione sull'autista e sulla macchina. Io uso tutto, le applicazioni, perfetto. Uber, le car sharing, i taxi, eccetera. Anche io. Allora qual è il problema? E gli altri, le altre se Uber vuole fare lo stesso lavoro che fanno i taxi, devono giocare con le stesse regole. Questo i tassisti hanno ragione. Le regole sono quelle dei fruitori. Sì, ma lascia bene, se Uber fa lo stesso lavoro che fanno i taxi, giochino con le stesse regole, li mettano alla pari, concorrenza alla pari. Se non vogliono giocare con altre regole, quello è un altro discorso. Dopodiché le manifestazioni, le violenze, abbiamo già detto. Simone Lecco, vai. Sì, ciao Cruciani. Dimmi. Dicevate prima perché non fanno il comunicato di solidarietà alla polizia, semplicemente perché non ci sono le forze che dicono mi hanno manganellato, mi hanno fatto. C'è gente in piazza che lotta, non c'è bisogno di nessun comunicato. Che vuol dire gente in campo che lotta? No? Gente in piazza ci che sono lotta. I tassisti da una parte, c'è la polizia, allora? Che può manganellare, io sono d'accordo. C'è anche un tirapugni che è spuntato da parte di un manifestante. Lo fanno tutto quel cavolo che vuoi, ma poi quel tirapugno non andrà in piazza a dire mi hanno manganellato, mi hanno fatto, come fanno. Io non ho capito, che cosa vuoi dire? Perché perché non ho capito nulla di quello che hai detto. Quando ci sono le manifestazioni di quelli di sinistra, allora che, ma cosa dice? Fanno le forze. Parenzo, sta zitto. Ma che le cazzo forze... sta dicendo? Ma, è, ma cosa fanno che sta cosa? Dicendo? Non ho capito. Che cosa fanno? Fanno Salvini e compagni, fanno i comunicati solidali alle forze di polizia, perché dall'altra parte sono tutti quelli che dicono la polizia fascista, la polizia che manganella. In questo caso non c'è nessuno che dice questo. E quindi non c'è bisogno di nessun comunicato di solidarietà. La polizia è stata comunque attaccata, è stata le divise certo, imbrattate dalle uova, eccetera. La polizia è stata attaccata, ha risposto e vabbè, è cosa vabbè? Di piazza. Ma vabbè, vabbè cosa vabbè? Ma va bene un cazzo, scusi. Ma vabbè, Parenzo, stai zitto, non ma va bene coglioni. Cosa? Ma difendete la polizia a corrente alternata, non ho capito. Ma difendete chi? Difendete chi? Chi cazzo sono io? Difendete chi? Lei chi? Mi sembra un idiota, ma chi ha gli argomenti come Parenzo, i suoi? Tu sei un coglione. Non, beh, io mi sono saluti idiota, a casa tutta coglione. La sua famiglia. Mm? Dopodiché, ci ho detto, alla una volta che lei mi ha salutato, ecco, mi sa, a lei, piacere Parenzo. Lei si chiama di cognome Stronzo? Lei si chiama di cognome Stronzo? Natania è bellissima. Lei si chiama del cazzo coglione. Ma che ne sa lei? Che ne sa lei? E poi un'altra cosa. Vabbè, Simone, sei un dire. Coglione, dai, ciao. Oh, no, mia madre, è vero. Beh, totale, sei un imbecille, totale, dai, ciao. Totale, ciao. Totale, totale. Ma va a cagare, va. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Tu sei il re della radio. Se tu fai video questa radio e io non sento più niente, chiudo. Hai capito, porco? Tu devi parlare di miappi, di fighe, di fighe. Se Giuseppe un giorno dicesse la parola tenerezza, rimarrebbero tutti a bocca aperta. Nascivo la nerchia. Non ce ne frega niente, nulla, zero. Sono andato lì dove è stato ammazzato il porco maiale, attentatore, suicida, a Sesto San Giovanni, una pisciata ci ho fatto sopra lì. Ah, ah, che pisciata. Ah, ah, che pisciata. Certo che siete proprio dei coglioni, eh. I tassisti, la maggior parte dei tassisti si sono indebitati, hanno comperato una licenza, hanno fatto un mutuo per una licenza, e questi qui di Uber arrivano, non pagano un cazzo e si mettono a fare praticamente lo stesso lavoro. Ma come cazzo state? Voi non siete vicino a loro, ma tutta Italia deve essere vicino ai tassisti, è giusto così. Anzi, visto che adesso voi li state trattando anche così di merda, dovrebbero venire porre lì da voi e riempirvi pure di mazzate, perché siete veramente dei coglioni. Qua si tratta di gente che ha figli, che ha famiglia, e se passa questo emendamento qua, questi qua sono in mezzo a una strada, sono pieni di debiti e praticamente il lavoro lo fanno anche questi qua di Uber senza aver pagato un cazzo, senza essere in regola. Ma voi siete fuori o che cosa? Cioè, ma basta prendere per il culo la gente e basta fare audience adesso sul dolore o sui problemi di queste persone qui, ma non fare il coglione. Cruciani, hanno ragione da vendere i tassisti, ma alla grande. Cos'è che farei io audience su che cosa? Su che cosa che facciamo audience? Sul dolore di questi. Sul dolore delle tassiste. Che cazzo dice questo? È impazzito completamente. È totalmente pazzo. Io sono sempre stato alla parte dei tassisti in questa vicenda di Uber. L'ho sempre detto. Però, amici miei, le Molotov, le bombe carta, i fumogeni, l'assedio ai partiti. Appunto. Quello no. Quello no. Lo dico per gli studenti di Bologna e lo dico pure per i tassisti. Punto e basta. Marco da Frosinone, vai. Ah, buonasera a tutti. Io volevo semplicemente dirvi che Almirante diceva che siamo Giorgio Almirante diceva che noi non siamo cittadini. Che c'entra Almirante tutti, adesso? Scusa. Mancava Almirante. Mancava. Mancava Almirante. mancava la citazione siamo, di Almirante. Siamo cittadini e non siamo è questo che vuol dire cittadini vuol dire, non che, subito, vuol allora... dire che il minimo che possa succedere quello che è successo a Roma è la conseguenza del fatto che noi beviamo, siamo vessati da un governo di merda. Ma quindi, che c'entra? Cosa c'entra? C'entra, quindi qualsiasi protesta che vada oltre la normale e civile telefonata, una trasmissione radiofonica, forse la conseguenza è quello che ci meritiamo. Se fossimo stato un popolo diverso, ma che vuol dire? Non vuol dire niente, ma sono delle frasi fatte, non vuol dire nulla quello che hai detto, niente, zero, non vuol dire niente. È un fatto sì o no che stanno manifestando e buttando le moto, è un fatto. Ma non lo so, sarà due o tre che hanno buttato delle bombe carta, non tutti. Ah, quindi non è, allora non è una cosa quelli allarmante. Che hanno buttato le bombe carta, quelli che hanno manifestato sono un dicendo, sì, allora, amico mio, senti, se vuole rubare funzione... a casa dei ladri, viene a rubare a casa dei ladri. Non c'è nessuna contraddizione. Ho detto lì. Certo. È chiaro che non è che c'erano mille persone con mille bombe carta, altrimenti sarebbe successo un casino. Sette volte no alla violenza. No? Beh, allora, certo, quindi, c'è stata violenza, c'è stata una violenza. Adesso. Bombe carta, assedio davanti ai partiti. Ma hai minimizzato due secondi fa. Ma chi ha minimizzato? Chi ha minimizzato? Ho detto semplicemente che sono scoppiate due bombe carta, una cosa gravissima, perché anche una sola bomba carta è grave. Allora? No, invece questa è la conseguenza ed di è che un cosa? Fatto che ti sto dimostrando, cioè, non ho capito se uno è incazzato perché le cose non vanno bene, perché l'economia non va bene, perché non riesce non va a tirare le bombe carta. Il governo, vai a tirare le bombe carta le persone che lavorano. Allora, il governo vessa con le tasse, quindi c'è il diritto ad assediare il Parlamento in modo quasi militare quando l'umanità delle persone viene messa sotto i piedi e calpestata. Umanità delle persone, quindi da gente incompetente che non c'ha nemmeno una laurea e il governo del nostro paese, e questo è il minimo che ti puoi aspettare. Cioè, il minimo. Dunque, secondo la rivolta, la rivolta sociale, benissimo. Quindi vediamo in Francia se hanno fatto di peggio. Ma tu non ho capito, tu sei a favore dunque del fatto che le persone vanno sotto il Parlamento, sotto Palazzo Chigi, arrivati e tirano, certo e tirano le molotov e tirano le bombe carta. Io non ho detto questo, l'italiano come no. Devi avere ma perché non hai i coglioni? Devi avere i coglioni di dirlo, devi avere i coglioni, ma non hai nessuno. Ti ho dimostrato in due parole che hai minimizzato una cosa che ti mi hai accentuato. Senti, quindi, Marco, viene a rubare a casa dei ladri. Ma che hai minimizzato? Non ho minimizzato nulla, sto dicendo che due bombe carta sono due bombe carta, punto e basta. È una cosa grave, che ho minimizzato, non ho minimizzato nulla. Imbecille, tu non hai le palle, non hai le palle per dire che è giusto andare davanti ai politici porci in Parlamento, ai politici porci in Parlamento a sparare. Non hai il coraggio, non hai il coraggio, non hai il coraggio. Questo è il punto. Invece questi hanno il coraggio, sono bravi. Sì, ma no, non sono bravi. No. Sono dei criminali, punto. Per me sono dei criminali. Ma che dite? Punto e basta. Io ti dico semplicemente che la conseguenza di alcune azioni protratte nel tempo può determinare poi una reazione scomposta da parte delle persone, ma te lo devi aspettare. Prima o poi ti devi aspettare che qualcosa accada. Questo è il problema grave che nessuno... Vabbè, Marco, ciao. Sergio, ciao. Roma, vai, Sergio. Sì, pronto? Dimmi, chi sei, un tassista? No, io non sono un tassista, tanto concedetemi un attimino... Io pensavo di aver chiamato gli uffici dell'ESS quando ho fatto la prima chiamata, ma hanno fatto un interrogatorio, chi sei, da dove chiami, che vuoi dire... Vabbè, eccomi qua. No, io volevo non dire, mi risulta che faccio un interrogatorio. No, vabbè, molto ma hanno detto l'argomento, vabbè, insomma. Ma che è un interrogatorio dell'ESS, non ho capito. Infatti io pensavo di aver chiamato uffici dell'ESS, forse. Vabbè, comunque il discorso, alla parte non hanno tirato nessuna bomba carta, queste sono tutte cazzate, hanno tirato due micette, un paio di rauti, perché bombe carta... Lei era in piazza, mi pare di capire. È altra roba. Che sei, in ambulante, che sei? No, io non so niente, io faccio l'autista privato. E che sei andato a fare? Che sei andato a fare? Allora, io giro, purtroppo, per fortuna, anzi, perché se no non c'avrei di che vivere, giro con la macchina e ho visto a mio fratello il fantasista, non è stata tirata nessuna bomba carta, a te che me l'ha confermato un mio amico che fa il poliziotto. Lo sa lui, che era, mio amico, allora quello che hanno scritto le foto pubblicate dai giornali, chi c'era lì, tutti i balle dicono a deficiente a coglione, cornuto, fammi parlare. Allora, ma dai, io che c'ho paura di te, cornuto, col culo seduto sulla sedia, tra parentesi, chiacchierato come il tuo, ma guarda che non sei altro, come ha detto, scusi, manganellare, devi stare tranquillo le tue chiappe sedute al calduccio, tra parentesi, chiacchierate, ma questo è un tuo problema, non è mio. Ma perché che hai nei confronti? A parte che non è vero, ma non lo reputerei un insulto. Io non c'ho niente, perché è tutta concorrenza in meno. io sono contento. Appunto, che tua sorella infatti a tua sorella piace in genere. Io ho tutti i fratelli, Valenzio, però la carne di porco non allora, ci piace. Ah, era tuo fratello quello che è venuto con me l'altro giorno. Allora, carne ah, era tuo fratello. Ragazzi, calma, calma. Il tuo fratello. Fai stare zitto questo. Sulla salaria, l'ho visto in buona compagnia. Sei un semi subnormale. Devi stare tranquillo, Sergio. Non ho capito, qual è il tuo problema. Non ho capito. Troppe poche mazzate ti hanno dato oggi. Troppe poche. Allora, le mazzate te le darei volentieri a te. Dai, ti aspetto. Vieni qua, ti aspetto. Dai, state calmi. A Roma, guarda. Io non ho capito, Sergio, non ho capito bene una cosa. Cosa vuoi? Coglione. Ma vaffanculo. Puoi litigare solo con i polli. Ma non ti permettere, coglione. Guarda, che sono più bravo di te a dire parolacce, imbecille, coglione. Guarda, io sono vaffanculo, testa di cazzo. Ragazzi, dovete stare tranquilli. Ma che è successo? No, ma sto coglione, che cazzo vuole? Ma fai sta zitto, sto frociaccio. Ma perché? Che serica. Brutto imbecille. Brutto imbecille, te chi ti ha messo al mondo? Imbecille, tu e chi ti ha messo al mondo, coglione. Ma perché? Che c'entrano i cessi della stazione? Poche te ne hanno date oggi. Poche te ne hanno date. Poche te ne hanno date, coglione. Ma perché? Ma perché? Sei un semi. Ma qual è l'oggetto della discussione? È sua madre l'oggetto della discussione. Ma che male c'è ad essere omosessuale? Adesso mi faccio incazzare. È tutta concorrenza in meno. Io li benedico questi signori. Perché tutta concorrenza. No, te li bruceresti, è diverso. No, io non brucio nessuno. Comunque io hai capito chi fa la protesta, hai capito la gente. Stai zitto, io non sto zitto. Ma tu oggi non parli, non hai ancora capito. Ma non hai capito che tu non parli. Tu non parli. Ma figurati. Ma tu non parli. Ti giuro su Dio che tu non parli. Ma te lo giuro. No, lui non parla oggi, ti assicuro che non parla. Poi l'altro non è manco un tassista, un ambulante. Perché stai a fare? Perché è solo un imbecille. Ma perché protestavi lì oggi? Perché protestavi? Non parli oggi. Mi fai parlare, fai tacere. Assolutamente no. Fallo parlare un secondo, falli fare 30 secondi. Fai silenzio, dai. 30 secondi. Fai silenzio tu, no, fai silenzio, non lo dici a nessuno. Silenzio tu, no, silenzio non lo dici. Zitto perché sennò tu, non ti imbecille. Faccio parlare. Ma chi conduce, Cruciani o Parenzo? No, tutti o imbecille. Tutti e due, imbecille. Vabbè, me lo fai stare zitto. No, non faccio stare zitto. Se continui così, non ti faccio parlare. Allora io mi silenzio. 30 secondi, 30 secondi, senza dire cazzate. No, senza dire cazzate, ma io dico le cose. No, senza di no, quello che. Sono un uomo del non sto con la sedia sì, su della strada sul sicura culo, col culo caldo della strada sulla sedia, sicura. Capito? Io mi guadagno la pagnotta. È bucata la tua sedia, è bucata la tua sedia. Pagnotta. È bucata allora, la tua sedia. Ma non ho capito, ma perché protestavi? Perché protestavi? È bucata la sedia. Perché protestavi? Il culo bucato, Valenzio. C'è la pure bella della ragazzi. Perché protestavi? Ma perché? Che ti chiama nel groviera a Milano, ma bravo, su. Dai, è su. Perché protestavi, Sergio? Perché sua madre, perché lui ha visto sua madre sulla salaria. Io capisco che non può. Sei un po'. Ma tu non hai ancora capito che non parli. Ma hai capito che tu oggi non parli. No, lasciamo parlare un attimo, se non chiudiamo questa cosa. Dai, lascialo parlare 30 secondi, ti prego, Davide. Lascialo parlare 30 secondi. Capisco che non lo vuole fare parlare. No, fallo parlare 30 secondi, dai, fallo parlare 30 secondi, dai, Sergio. Allora, intanto dico a sto pezzo di merda che le mani non ti tocca. Basta, 30 secondi. Ma non hai capito ancora. Sergio, dimmi. Un pezzo di merda. Ma non hai capito. Merda, ragazzi, non si può. Ma non hai capito. Ma che c'entra, Frocio? Non è un'offesa. Ma non hai capito. Ma non hai capito che tu se continui così hai non detto parli. Le peggio cose, adesso non può dire niente di tua madre, dai Sergio. Vabbè, ma allora, l'hai capito o no? 30 secondi, ti prego Davide, 30 sì, secondi. Ma te lo fai sta zitto, sto deficiente. No, io così parlo, no. Ancora, ma non hai capito. Ancora non hai capito, imbecille. 30 secondi, vai. Che più tu mi insulti, più non parli, non hai ancora vabbè, capito. Non ti insulto, va bene. Hai capito allora, o no? Io ho capito. Oh. Senti, oh, perfetto, taci adesso. Ma vaffanculo allora. Ancora. Ma non è. Ma tu, ma capisci o no? Che cosa vuoi dire sui taxi? Che cosa vuoi dire su quelli che hanno protestato? Voglio sapere in 30 secondi da Sergio cosa vuoi dire su quelli che hanno protestato. Bene, che io al posto loro, altro che bombe carta, io sarei andato proprio con le armi. Sì, perché con le armi arrivato. Questa è gente, ecco, capito. Gente. Sì. Con le armi di che? Con le armi in Parlamento, ma tu sei. Ma tu sei da arrestare, numero? Sei da arrestare con le armi in Parlamento. Che vuol dire con le armi, Sergio? Io non ho problemi, guarda, io non mi assumo la responsabilità. Con le armi, perché per sparare a chi? Con le armi per sparare a chi? Ho sentito gente qui che parla di ammazzare il ministro del Presidente del Consiglio, io non posso dire la mia. Allora, qui c'è gente che ha comprato le licenze, che l'ha pagata fior di quattrini. E infatti vanno indennizzati. Rischiano che queste licenze diventano carta straccia. Infatti vanno indennizzati. E infatti vanno indennizzati. Ciao Sergio, ciao. Sergio, ciao. Ah ragazzi, Antonio Pennacchi con noi, buonasera. Buonasera. Molto bene, molto bene. Antonio, come stai? Come stai, Antonio? Che c'è? Ma c'hai un problema? Com'è la salute, come sta? Come va? Sono poveri vecchi. Poveri vecchi, vabbè, ma c'è qualche cosa di negativo? No, per carità, poi se possono dire. Insomma, i soldi acciacchi, insomma, la schiena, le gambe, eccetera. Ecco, dai, io sono curioso di sapere da te, caro Antonio, cosa ne pensi di questa questione della scissione, sì, di Bersani, eccetera. Perché da te, insomma, che sei uno sanguigno, che è uno, certo, che ci tiene anche al partito in qualche modo, no? All'unità. Ecco, questa scissione, che te ne pare? Senti, io ti devo dire che sono un po' di giorni che sono addolorato e disperato per questa cosa. Sì. Tant'è vero, sono 4-5 giorni e non riesco a scrivere proprio perché sono addolorato. Addirittura? Pazzesco. Certo. Ironicamente oppure lo stai dicendo? Davvero. Vaffanculo, crociato. No! Ma perché mi vai a far culo? Io sono una persona seria. E allora? Che mi metto a scherzare su queste cose? No. Questa è la mia storia. Io ho tutti i dimentichi che prima di cominciare... De scrivere libri, io ho fatto 30 anni in fabbrica, insomma, io sono classe operaia, quindi se per questo mi consenti, questa è la mia storia dietro, no? Dunque, cos'è che ti addolora? Il fatto che ci possa essere una scissione? Certo. Per cui chi sta sbagliando? Eh? Chi sta sbagliando? Bersani che se ne va o Renzi che è troppo arrogante? Senti, Renzi è troppo arrogante e su questo non si discute, ma secondo me sbagliano i compagni che se ne vanno, perché insomma al primo posto viene il paese... l'interesse generale del paese, quindi non se ne scuse. Questo lo diceva Togliatti, insomma, bisogna mettere l'interesse neanche il partito, ma l'interesse generale del paese. Per cui dici, questi qua no, se ne vanno per i cazzi loro. La scissione non serve né al paese, sì, né alla sinistra, sì, né al movimento generale dei lavoratori e anche a quel poco che resta della classe operaia. I lavoratori ormai quelli se ne sono nati, ormai votano per altri, votano per altri, lo sai. Questo non conta. Un partito serve a che? Il partito della sinistra a che serviva? Serviva a questo, a costruire l'emancipazione generale dell'arche massa lavoratrice Ma scusami Antonio, Renzi è di sinistra o no? Questa era alla fine, Renzi è di sinistra o no, secondo te? Secondo me sì, perché ma non si discute questo. Allora innanzitutto, bravo, su questo sono d'accordo con te, su questo. Bene o male è un alibi quelli che dicono che è di destra, non è vero, è di sinistra, è arrogante, è stronzo, c'ha una concezione totalitaria del partito, vero. Dice qui comando io e tutti sotto, è uno stronzo, come si dice, un burro, sì, ragione. Sì, è vero, tutto vero. È uno che se io avessi incontrato Giovane sbagliando, recuperano le botte. Ma ha ragione. Io su questo, guarda, devo dire, per la prima volta sono d'accordo al 100%. Detto questo, senti, ma mi hai chiamato per parlare tu, per farmi parlare a me? Beh, ti ho detto che c'è ragione, più di questo, che te devo dire? Io ce la fanno, non è che sto c'è tempo da perdere con te. Mi chiami sempre a gratis, non mi paghi. Per cui questo no, questo è scusa. Un'opinione non si possono pagare. Emiliano, che ne pensi? Questo tira e molla di Emiliano. Tira e molla di Emiliano, che ne pensi? Non voglio no comment. Perché no comment? Che sei? Cosa? Che sei il Papa? Sono una persona per bene, non voglio dire parolacce. Allora, su che? Su Emiliano dici? Sì. No, perché che parolacce gli diresti? Hai detto che Renzi è uno stronzo, tu che dici? Chi l'ha detto? Tu hai detto che Renzi è uno stronzo. Emiliano facesse quello che gli pare. Non lo voteresti tu se ci fossero le primarie del PD? No. No. Io se ci fosse la prima, io voterei innanzitutto, a me quello che mi è piaciuto da morire in questa fase. Chi ti è piaciuto? È Cuperlo. Non si capisce un cazzo quando si parla Cuperlo, dai. Tu non capisci un cazzo. Non capisco nulla di quando parla Cooper, non si capisce perché una mazza. Sei un testa di gas e ti mancano le scuole. Quello può essere, anche se mi sono laureato. Però devo dirti la verità, quando ma io capisco che a te piaccia Cooperlo quando parla. Io non capisco nulla, niente. Ma dai, ma mica dice cose così. Gli è costata a tuo padre la laurea tua. I polli hai dovuto portare ai professori. Ti ripeto, in questi video io ho apprezzato tantissimo Cuperlo, l'atteggiamento di lui, perché è una persona squisita, molto seria, è vero. Anche i ragionamenti che ha fatto sono quelli, ragionamenti politici, certo. Sì. Ma se parlate voi o parlo io? Sono la tradizione complessiva del movimento del lavoro, del movimento democratico di questo paese, che è l'unità del partito e l'interesse generale del paese. Allora, Bersani, come, in questa fase, come lo fotografi? Come lo, che definizione dai, una delle tue, su Bersani? Una testa di cazzo, com'è? Un compagno che sbaglia. Un compagno che sbaglia. Emiliano, dimmi qualcosa su Emiliano, ti prego, perché lui vuole... Forse una specie di compagno che sbaglia. Pure lui, una specie, perché non è manco un compagno, è un magistrato innanzitutto, un magistrato... ecco, è un giudice, poi fammi capire a me la posizione sulle trivelle, mi fanno impazzire, se tu sei uno della sinistra, devi essere a favore del progresso, sì, dello sviluppo tecnologico, invece, eccetera, perché se no non ci capisci niente. Certo. Vabbè. E dunque alla fine come finì? Io, io voterei Orlando, Orlando, ma tu puoi votare, ma tu puoi votare ora uno come Pennacchi, così sanguigno, eccetera, che vota Orlando, amico mio. Orlando. A me serve un dirigente che sappia unire e non dividere. Senti, ma questo nuovo movimento che vogliono fare, Speranza, sì, Bersani, e Rossi, quello della, della Toscana, Rossi, no? Rossi. Come lo vedi? Una cosa vecchia. Iscriveteci tu. No, io no, guarda, allora che cazzo vuoi da me? Allora, quello che non si può fare, la classe operaia, il movimento dei lavoratori, sì, la sinistra, il paese non hanno bisogno più di dei piccoli movimenti minoritari. Questo è vero, questo per cambiare le cose, per fare le riforme, per far avanzare il paese, per far uscire il paese dall'impasse, bisogna stare insieme. Occorre una forza che sia maggioritaria, su questo non si discute. Dì qualcosa, fai un appello a Bersani, che tu lo conosci, signor Bersani, compagno Bersani, fai un appello a Bersani, l'appello è questo, la cessione non serve né al paese, né ai lavoratori, né al movimento generale dell'emancipazione. Ancora questa emancipazione. Dentro il Partito Democratico. Bene, e i tassisti che... Il partito della sinistra, perché è il più grande partito socialista europeo, sì, beh, cioè, i compagni tassisti qua dentro. Non ti scordare che dopo 70-80 anni, sì, questa è la prima volta che tu hai avuto una legge sui diritti civili, certo, sulla quella dei froci, sì, quella dei froci, non lo dovete scordare, quella dei froci, certo, non c'è dubbio. Come froci come te? No, ma perché sono froci? Ce la metti su sto piano? Ma no, quella è diritti civili dei froci. Ma tu non mi puoi telefonare per farmi provocare? No, per carità. Senti, ma i tassisti, i compagni tassisti che stanno a protestare? I compagni tassisti che protestano a Roma? Non so niente, io il taxi alla vita non lo vivo mai, per cui... Perché costa troppo? E che ne so, certo, io cammino a piedi. E Grillo? E Grillo? Ma va a fanculate Grillo. Grillo, ciao, dice va, che Roma non, ciao, va così male. Roma dice, sì, dice che Roma alla fine non è poi così male, Grillo. E ci venisse a bere a lui, ma dica va a fanculo, ciao va. Ma ciao, perché va a fanculo a Grillo? Che ha fatto, poveraccio? Signor Pennacchi, Antonio, però gliene ha dette due pure a Renzi, è uno stronzo, eh? Sì, no, che fosse stato arrogante, uno stronzo, fosse negli anni 60-70. Beh, abbiamo capito che non è a favore della scissione, il signor, no, Pennacchi, molto, in pochi minuti, però ha dato un quadro, come dire, molto, dell'umore della base, diciamo, no? A fra poco, ragazzi, non mollate che abbiamo ancora un sacco di roba, Lasciati un parenzo e alla defecazio non ci penso. Arenzo! Luca! Cruciani! La Zanzara! Carol! Carol, mi dici in quanto ti lavi, per favore? Ogni due giorni. E i calzini in quanto te li cambi? Una volta alla settimana. Madonna, siamo al top! Giuseppe, funivia da 65 persone in alta montagna, sai, quella proprio a aria pura, montagna 2500 metri, funivia piena, piena, sembrava di stare nella metro di Roma nell'ora di punta, a metà strada, una bella scureggia, tutti che si guardano, ovviamente guardano i più vecchi e io lì, con il podcast della Zanzara nelle orecchie, godevo, godevo, cazzo! Mia moglie ha deciso di occupare il bagno e io ho deciso che piscio nel lavello della cucina e siamo al top. Sono in discoteca e tutti pisciano nel lavandino, ma io, David, sono con te. La maggioranza silenziosa piscia nel cesso. Allora, Gruciani, sono con una mia amica che mi ha appena raccontato che si è documentata e farsi più di due bidet al giorno è assolutamente dannoso. Pensavo che ti potesse interessare. Ah, ah, che pisciata! Mm. Momento intimità, caro Parenzo, momento intimità con gli ascoltatori, sì, che si liberano, sì, sì, si liberano dalle loro paure, raccontano quello che sentono e come, certo, affrontano anche i momenti più, sì, più, più intimi, intimi, certo, della più giornata, quelli, certo, in cui uno sta, certo, in bagno e alla fine dovrebbe tenere dentro di sé le sensazioni che prova, e invece qui tutto viene a galla, ecco, letteralmente tutto viene a galla, bravo, bravo, compresi alcuni ascoltatori che vengono a galla. No, beh, adesso ogni questo riferimento, no, all'ascoltatore precedente è puramente voluto. Sì, sei stato troppo duro, devo dirti la verità, no, con l'ascoltatore precedente. Chiedo scusa. Sei stato troppo duro, no, ma hai fatto bene perché ti è venuto spontaneo, tutto quello che, sì, è spontaneo, no, va bene. Sì, lo so che ti piace, ma no, ma chiedo scusa al pubblico perché io generalmente non parlo così. Vabbè, non devi pubblico, chiedere scusa adesso, privato, non c'è bisogno, ma in che fai, come la Balivo che prima, sì, dice una cosa e poi chiede scusa, non ho capito. In particolare chiedo scusa all'amico Matteo Grittani, l'amico di Twitter che sempre segue le mie res gesta. Sì, come molte cose della Zanzara, sì. L'amico Grittani, che giustamente dice turpiloquio non da lui, gli è scivolata la frizione. Grittani ha ragione, che è un grande, come dire, conoscitore delle parenziadi, sì, però volevo dimostrare a questo simpatico ascoltatore che anche tu puoi arrivare a... che anch'io lo posso mandare a quel paese con gli stessi argomenti suoi, se tu non stai di dicendo più, dell'ascoltatore prima di, Pennacchi, prima, sì, dell'arrivo, esattamente, di Pennacchi, no, certo, quell'ascoltatore lì, ecco, volevo dimostrare questo, però chiedo scusa se non devi ho chiedere avuto scusa, non fare come no, quelli no, che dicono una cosa e poi chiedono scusa, dai, ho avuto un eccesso, un eccesso di turpiloquio. Andiamo a Bologna da Riccardo, vai. Buonasera. Dimmi, dimmi. Io credo che quello che sia successo a Roma sia, sì, la conseguenza della totale incompetenza della classe politica in generale, non, questo solo può per, essere, non solo per i taxi, per anche per gli ambulanti. Sì, ma guarda che nessuno, nessuno dice che questa roba, ecco, qui del decreto del, certo, del mille pro, sia la cosa più bella del mondo. Probabilmente, esatto, hanno fatto le cose di nascosto, non chiare, ma nessuno dice questo, esatto, nessuno protesta, però, contro la protesta. Per me possono fare tutte le manifestazioni, violenza, a me violenza, io sono, scusa un attimo, io sono, aspetta un attimo, io sono intollerante nei confronti della delle manifestazioni in generale, però, vabbè, se uno vuole manifestare, manifesti pure, però amico mio, l'assedio, le uova addosso ai poliziotti, gente ferita, la violenza non porta niente, ma solo d'accordo, questo, dai, se io lo però, dico degli studenti, problema, degli studenti a Bologna, lo dico appunto, anche contro questi qua, dai, vale, no? Cruciani, però il problema è che la situazione sta andando, e dunque hanno fatto bene a sfasciare tutto, no, hanno fatto bene, si sta evolvendo malissimo, ma non solo per i taxi. Vabbè, quindi allora per me i politici, prima di fare delle cose, prima di fare le cose dovendo, sì, avere paura, è bene che ci pensino. Perché non ho capito. Hanno fatto bene, hanno fatto bene a fare quello che hanno fatto davanti al Parlamento, sì o no? Ma alla fine della fiera è quello che il politico si merita. Cioè, che cosa? Essere picchiato? No, no, prendere due uova, se l'hanno tirata la polizia è sbagliato. No, il ma che c'entra? È il minimo che si merita. Vabbè, il minimo, cioè momento, invece quello che si meriterebbe sul serio, che cos'è? Tu dici il minimo, andiamo, diciamo. Guardi, qua si va a finire verso una brutta situazione. E dunque, no, e dunque uno deve andare in Parlamento a dare mazzate? No, no, no, no, andare ammazzate no, però i signori bisogna che capiscano che quando fanno qualcosa devono fare in base alle leggi, se le modificano fanno l'iter parlamentare che devono fare e non fare maialate all'interno di un vabbè, Michele Genova, dai, Michele volte, da Genova, dai. Buonasera, dimmi. Gianni, buonasera. Vorrei. Dimmi. Allora, io volevo fare, non so, un confronto, cioè, a quello che è successo ai primi di febbraio. Sì, ma stai parlando col viva voce, amico mio. No, no, no, no. Sì, no, sì, auricolare, no, viva voce, cose di questo no, tipo. No, aspetta, aspetta. Il cazzo, amico mio. No, no, non c'ho viva voce. Ma dai, Michele, su, mi comunque. Mi senti male? No, vai, dimmi. Certo, la radio la devi spegnere, questo è sicuro. Giustamente scrive un ascoltatore su Twitter, comunque lo sciopero dei taxi sta funzionando, stanno usando tutti Uber, anche quelli che non sanno cosa. Vabbè, allora Uber. Michele, dimmi. No, cioè, quello che è successo i primi di febbraio in Romania, praticamente. Sì, vabbè, i primi di febbraio in Romania, che è successo in Romania i primi di febbraio? E praticamente hanno approvato una legge che al popolo non è andata bene. E allora? Tutti in piazza. Sì, quella sulla. Ma sulla corruzione, però, allora non c'entra niente. Hanno risolto praticamente. cioè non ho fatto casino, no? Sì, ma ho capito, ma lì era, le cose erano anche abbastanza chiare, cioè c'era una legge di un certo tipo e questa di un altro tipo. Poi se i politici hanno ritirato la legge perché c'erano migliaia di persone in Parlamento, sì, questo è quello che non funziona. Anche, scusi, anche il ministro, quello cioè, che non funziona. Allora, lei che cosa vorrebbe? Non ho capito, Michele, cosa vorrebbe? Io voglio dire che a volte l'italiano, cioè non voglio giudicare l'italiano. Ma tu lo sai, però, di che sta parlando? Lo sai dell'argomento, sì, di cui sta, sì, parlando? Sì, io lo so di quello che sta. Però a volte si esce più facile in strada per la squadra di calcio che per una cosa così. Vabbè, ciao Lamberto, provincia, sì, di Ancona, vai Lamberto. Buonasera Giuseppe. Dimmi Lamberto. Io dimmi. Prima di tutto voglio dire una cosa, io sono un camionista e ho un fratello camionista, sì, nazionalista e un po' di destra, che così sta antipatico a Parenzo. Ma no. Anzi, vabbè, allora? Dico pure anche un po' fascista. Se le piace dire così. Una cosa, dei tassisti, i tassisti, sì, sono solidali con loro e fanno bene. Perché questa gente ha finito di rompere i coglioni alla gente che lavora. Forse sarà l'inizio di una cosa che sarà finita ancora peggio. Vabbè, questo è l'inizio, perché eccolo, il popolo, qua, quando è esasperato, vabbè. Il popolo. E poi sul fatto dei Salvini. Ma quale popolo? Sono alcune persone, ma no, quale popolo? Ma come si fa a dire popolo? Il imbecille prima che ha chiamato, capito? E poi un'altra cosa, dei finocchi, io sono camionista e non sono finocchio, come che diceva quello lì l'altra sera, che tutti i finocchi, non è vero un cazzo, io i finocchi li mettevo in un campo di concentramento insieme a quelli che gli dà ragione, li mettevo lì separati perché non sono persone normali. Cioè, non capito, cosa faresti con i finocchi? Cosa faresti con i finocchi? Li mettevo in un campo ricintato, stavano lì, non l'hanno stavano già niente fatto alla società. L'hanno già fatto durante il nazismo, nei forni crematori. Ho capito, perché la storia non si può ripetere. Beh, questo è interessante, però questo è buono. Questo è buono. Denuncia, Lamberto dalla provincia di Ancona. Allora, non è interessante. Fermiamoci denuncia, un attimo, Lamberto dalla provincia di Ancona. Allora, camionista, mi sembra, no? Che ha lasciato il numero del centralino. Camionista, non omosessuale. Io fatico, Cruciani, a differenza di parecchia gente che nasce con i soldi, come qualcuno che per carità, lascialo cosa parlare c'entra? Un attimo prima di chiamare subito il centralino, eccetera. Allora, Lamberto, camionista, mi sembra, sì, non omosessuale, mi sembra, no? No, assolutamente, sono una persona normalissima. Normalissima, cioè una persona per bene, diciamo, no? Ormai, in tutti i sensi. In tutti i sensi, cioè per bene, cioè non lo pigli in culo, mi sembra abbastanza chiaro, no? Primo, secondo, lavoro, non lo metti nemmeno in culo, mi sembra, non lo prendi e non lo metti. No, assolutamente. Ma alle donne magari sì, lo metti in culo. Ma chi ti frega? Questa è una cosa che... Questo sono affari tuoi, è roba personale. Ha detto le peggio cose. Nella buca della serratura. Beh, amico mio, hai detto che sono finocchi, i finocchi vanno messi in campo di concentramento. Non ti posso chiedere se lo metti in culo la donna tua. Scusa, abbi pazienza. Adesso questo pure mi pare eccessivo. Comunque, vabbè. Vabbè, tiriamo avanti. Andiamo avanti. È di poco interesse. Sì, no, infatti. No, hai capito. Lamberto, dunque, camionista, non omosessuale, mi sembra, eterosessuale. Esatto. Anzi, come me ce n'è tanti. Sì, ne sì, tanti, perché normali. diciamolo, molti normali, perché quelli gay normali, che sono invece anormali. Tu dici che quelli gay non sono normali invece, giusto? No, non sono proprio normali. Non proprio normali, perché vanno messi, vanno messi che non gli funziona bene, secondo me. Non gli funziona bene, cioè vanno messi dove allora? Vanno eliminati, vanno messi in un campo di concentramento, no, isolati. Io sono un pacifista. Ma hai detto che li vorresti mettere in un campo di Hai detto che bisogna metterli in un campo di Sì, perché vanno rompendo i coglioni. E dunque che bisogna fare? Isolarli da qualche parte, così non rompi i coglioni a me mentre viaggio. Dunque, sosta, metterli in un ghetto, in una specie di ghetto. In un ghetto, quello vicino a fianco a te ne sa qualcosa dei ghetti. Cioè, in un ghetto come gli ebrei durante il nazismo, diciamo, no? Pazzesco. Sì, ma io li trattavo meglio. E non li faccio manco la roba, gli do la magna pure. A chi? A quelli che stanno dentro il recinto. Dentro il recinto, i maiali, stai dicendo? A me non me ne frega un cavolo quello, che uno può pensare quello che vuole. Beh, scusa Lamberto, però intendiamoci bene su questa cosa qua. Allora, tu pensi che il signor Hitler abbia fatto delle cose giuste? Perché lui non da conseguenza quello che dice, non ha idea del valore di quello che dice. No, non è che ha fatto le cose giuste. Lui non sa quel che dice. Ha esagerato un po', diciamo. Esagerato un po' tanto. Un po' tanto. Comunque, gli omosessuali, diciamo, se non ci fossero sarebbe meglio. Sì, ma perché voi a me mi dà fastidio una cosa, che Giuseppe. Te dà fastidio? No, fammi capire. Loro vogliono essere migliori di noi. Ma nelle piazzole di sosta, che succede nelle piazzole? Uguale. Te mettono le mani addosso, che fanno? Ci provano, chiedono, che fanno? No, dame fastidio, se si avvicina, non riesci nemmeno a scendere dal camion, che stai subito addosso, sembrano subito gli avvoltoi. Uccello, uccello di fuori pure? No, quello non è mai capitato. Questo io dopo li posso fare pure la strappare nel culo, non è che... Sì, per pure, carità. Lamberto dalla provincia di Ancona, ciao amico mio. Alessandro, Roma, vai. Ma non mi chiamano. Alessandro, chi c'è? Chi è? Giulia, chi era? Giulia. No, Alessandro, Alessandro. Giulia, stai calma un attimo, adesso arriviamo da te. Chi è Giulia? Arriviamo, è una da... Cosa? Ci manca anche Giulia. Da Lodi. Alessandro, dimmi. Sembrava la voce, giusto? La voce un po' fatta. Comunque, vabbè. Sono in linea, giusto? Alessandro, dimmi. Salve, buonasera a tutti, ragazzi. Sì. Allora, qua siamo un paese democratico, ok? Sì, mi fino a prova contraria. Fino a prova contraria, sì. Allora, io adesso mi trovo nella zona di Portavia, dove c'è questo casino qui davanti al ministero. C'è casino dappertutto, non solo a Portavia. Sì, vabbè, però vabbè. Io parlo di Portavia perché mi trovo qui. Vabbè, allora, i supermercati vendono l'alcol a chi? Ai tassisti, sta giornata. Vabbè, che uno non può comprare l'alcol adesso. Vabbè, ma devono scioperare o devono vendere l'alcol? Ma chi? I supermercati? I tassisti, stesso. Sì, vabbè, uno va nel supermercato e si compra una bottiglia. Ma adesso non è che sono tutti ubriachi, dai, amico mio. No, e vabbè, ma uno deve scioperare, ma bisogna scioperare pure con maniera democratica. Faranno i cazzi loro con, se vogliono andare a prendere una bottiglia di vino, una bottiglia di birra dentro il supermercato, saranno liberi di farlo o no? Sì, però dai, ma allora non possiamo offendere sempre la classe politica, perché la classe politica adesso non è idonea. Vabbè, Alessandro, cosa hai chiamato a fare? Spiegami. Ho chiamato perché dobbiamo fare le cose come si deve. Voi come trasmissione non bisogna sempre offendere, perché qua chiamano le persone e offendono voi. Voi giustamente contraccambiate queste offese e così non si va avanti, non si risolve niente, perché le polemiche è inutile. Bisogna fare i fatti. Cioè dobbiamo chiudere noi, praticamente. Voi no, perché siamo una trasmissione nazionale. Le persone che vi chiamano non devono chiamare. E se non ci chiamano, possiamo chiudere. Perché no, io dico non devono offendere a voi e soprattutto voi non dovete. Ma chi è che non deve offendere? Aspetta, fammi capire, chi è che non deve offendere chi? A voi. Chi è che viene offeso da chi viene offeso? Ha offeso il tuo collega lì a fianco. No, ma chi è la persona offesa? Le persone offese sono quelle là che vi chiamano a voi. E chi chiama chi offende? E chiama chi offende a voi offende. No, ma non ho capito bene, chi è che è stato offeso? A voi, le persone hanno chiamato a voi. E chi chiama offendendo? Cioè, hanno detto offendendo, chi offende? Come chi chiama? Ah, a se stesso, bravissimo, questo sì. È sicuro. Questo è sicuro. E l'offesa da chi viene? Dalla persona stessa, quindi... E chi offende si sente offeso? Ah, è un cretino quello, è normale. Arrivederci, ciao. Prego. Andiamo avanti. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. La Zanzara. Ragazzi, intanto si è candidato Emiliano alla segreteria, finalmente, dopo tanti ripensamenti, passi avanti, passi indietro, contraddizioni, casini, si è candidato Emiliano. E mi candiderò alla segreteria del Partito Democratico. Mi candido alla segreteria del PD perché questa è casa mia, è casa nostra e nessuno può cacciarmi o cacciarmi via o cacciarci via. Ricambiato idea, io ho pensato a quello che dovevo fare, dopodiché quando abbiamo deciso fino in fondo qual era secondo noi la soluzione più giusta, l'abbiamo presentata. Vabbè, io di questi capitomboli, di questi ripensamenti, di queste cose, e la politica è fatta così, non c'è niente da fare. Prima voleva uscire, poi ci ha ripensato, secondo me ha fatto bene. Candida, no, ma io penso che abbia fatto bene, certo, poi alla fine. Conti molto di più là dentro che non fuori, sì, questo è evidente, chiaro, dai. Su. Ma vogliamo dire qualcosa sulla Le Pen, che ha rifiutato di mettere il velo e ha saltato l'incontro? Bravo, questo stavo per dire. Grandissima, grandissima. Tu dici grandissima. Beh, immensa. Cioè, fammi capire, mi piacerebbe sapere. Rifiutarsi di mettere il velo, ma, una cosa sacrosanta. Un gesto da arditi. Ha cancellato l'incontro con il Gran Mufti del Libano. Se mi vuoi incontrare. L'autorità del. Voglio vedere poi quando se i francesi mi vuoi, non me ne frega dovranno niente. Avere se rapporti mi vuoi commerciali con il Libano. Senza velo, io vado lì con la mia testa. È una stupidaggine. Sarà perché? Una stupidaggine, ma ha fatto benissimo. Perché quando, no, quando qualcuno fa una visita di Stato in un foto, altro paese, meglio di quelli che vanno o lì. Quando uno, ad esempio, entra in chiesa, per rispetto si toglie ma il cappello. Ma non è che va in chiesa, mica no. Va in chiesa. Mica va no, in chiesa. Ma lì stava incontrando un'autorità religiosa. Dai, no, su. Attento. La differenza della maleducazione, della stupidaggine, del gesto della Le Pen. Ma quale maleducazione? La stupidaggine. Scandalo alla Zanzara, Parenzo insulta Marion Le Pen. Sì, la insulto perché ha fatto una stupidaggine. Ma quale stupidaggine? Cioè, doveva ha chiesto lei di incontrare il Gran Mufti. Per incontrare lui, quando incontri il Papa, c'è una regola: vai col capo coperto. Ma lì, non me ne frega niente di andare al Gran Mufti coperto. Ma non me ne frega qualcosa. Non me ne frega nulla. Ma è una questione di protocollo e di rispetto ma verso che protocollo? Chi ti ospita. Lei pensa che il velo sia sottomissione, ma lei, sia simbolo di sottomissione? Dal Papa, ma mi non lo fai so, ragionare. Non mi ricordo quando è andato se dal Papa. Se uno va dal Papa, si copre la testa. Risposta sì, per i capelli, per rispetto dell'autorità. Se vuoi non ci vai, mica te l'ha chiesto il dottore di andare a trovare il Gran Mufti. Altra cosa, altra cosa. No, ma è una stupidaggine. Ragazzi, proprio. Altra cosa, ma vi pare normale che le autorità imbarcano 60 immigrati su un traghetto? 60.000, di cui alla fine si è scoperto 30 senza permesso di soggiorno, 30 irregolari con foglio di via, cioè già espulsi, ma venivano mandati da Cagliari a Napoli. Senza la polizia, questi hanno devastato un traghetto, minacciato i passeggeri. Innanzitutto farli viaggiare insieme ai passeggeri. Sì, sbagliato. Ma roba allucinante, dai. C'è dubbio, c'è è dubbio. Così che gestiamo l'immigrazione? Il ti nuovo corso di questo. Minniti è questo? No, ma che mandare Minniti, gli immigrati ma... dentro. Chi era il ministro dell'interno? Mio nonno. Mandare gli immigrati dentro una nave insieme ai passeggeri normali? Così sì, si gestisce l'immigrazione? Sbagliato. Dai, questi hanno devastato tutto, rubato, distrutto, assediato i passeggeri stuprato. Delle cabine. No, questo stuprato non sembra. Quinta colonna, ma quello che è successo, parte, è quello che è successo. Però. Hanno stuprato anche? Adesso, però, io voglio chiamare una persona, caro David. A questo quinta punto della trasmissione è giusto chiamare una persona. Questa persona si chiama Tony Brandi. A te forse il nome non dice nulla. No, io conosco lì Brandi. No, Tony Brandi è il presidente di un'associazione che possiamo chiamare anche integralista, che si chiama Provita. Provita. Uno dice pro vita, perché sono quelli pro morte però. Sì, esatto, comunque associazione pro vita. Tony Brandi, uno di quelli che pensa naturalmente tutto il male possibile dei matrimoni gay, eccetera eccetera. Sentiamo che ne pensa della vicenda di cui abbiamo parlato ieri, cioè le associazioni pagate dallo Stato. È necessario, sì, penso che sia necessario. Sentiamo. Allo, pronto? Sì, pronto, signor Brandi? Sì, sì. Sì, buonasera, io mi chiamo Cruciani, salve. Ah, salve. Come sta? Si va avanti. Si va avanti, si combatte sempre, eh? Esatto. In nome della famiglia, come dire. Guardi, diciamo vita e famiglia, va. In nome della vita e della famiglia, per carità, assolutamente. Ma d'altra parte, chi è contro la vita e contro la famiglia? C'è un 1%, 2% che lo sono, ma sì. La stragrande maggioranza c'è ancora il buonsenso e la ragione. C'è anche il ruolo di Satana, secondo me. Sì, questo è vero, questo ci credo anch'io. Cioè, conta Satana, secondo lei, nella vita? C'è lo zampino del diavolo? Guardi, obiettivamente parlando, io sono cattolico, per cui sì, beh, certo. Questo si è capito. Per esempio, in tutta questa vicenda qua, dell'UNAR, no? Che finanzia le associazioni. Ecco, lei che dice? Guardi, è una cosa che è quasi incredibile. Insomma, noi in Italia abbiamo terremotati e il nostro governo, anzi i nostri ultimi tre governi, incluso questo qui, cosa fanno? Promuovono l'omosessualismo, il transessualismo e danno soldi a questa gente. Non ora, c'entra niente questo. Le sottolineo che io lavoro all'estero dal 71 e ho avuto degli ottimi colleghi omosessuali. Ottimi? In che senso ottimi? Ottimi che facevano il loro lavoro, che però non pensavano a promuovere l'omosessualità agli altri, a dar fastidio. Cioè, perché l'omosessualità non va promossa, lei dice, non va propagandata. Gli omosessuali sono dei fratelli che vanno aiutati, perché loro non sono fratelli. Per niente gay. Ma perché vanno aiutati? Guardi, agenzie del governo americano, ora devo trovare... sì, i nomi, però il centro del disease control, per sì, esempio, sì, sì, confermano che loro hanno molti problemi di salute, molti di più degli eterosessuali. Cioè, secondo lei i gay sono, si ammalano molto di più? Problemi psicologici, problemi sì, di ansia, sì, di depressione, sì, tentativi di suicidio. Sì. Aspetti un po', se non riesco, se no mi casca tutti i libri. Comunque, non lei ha detto una cosa, vanno aiutati, dunque si può curare l'omosessualità volendo. Ah, ma questo è un fatto assolutamente, ci sono, c'è cioè, per esempio il famoso psicologo, sì, no, psicoterapeuta, sì, Van Artsberg. Sempre con due A. Van Artsberg, capito David? Van Artsberg. Van, allora glielo spello, sì, A-A-R-D-B-E-R-G. Soprattutto le lesbiche possono tornare a essere eterosessuali più facilmente dei gay. Quello è più facile. Perché è più facile, signore lesbiche? A questo non ho la minima idea, questo lo dicono i psicologi. Ce lo dicono i psicologi. Cioè, è una cosa da cui si può tornare indietro. Cioè, se uno dice... Ma questo è assodato, ma ci abbiamo avuto Luca Di Tolde, ci abbiamo avuto, certo, Mr. Gay America. Ci sa, il dottor Spitzer, che ha scritto un libro, sì, non mi ricordo il titolo, che ha dato 200 testimonianze di gays che sono tornati a essere eterosessuali. Cioè, ma è anche giusto che tornino, cioè è anche una cosa corretta, cioè nel senso c'è bisogno che tornino eterosessuali. Io quello che dico è che loro gays, sì, gays sono gays quanto io sono un cinese, perché gay in inglese significa salute, cioè? Ma felici, ma non sono felici. Io ci ho avuto. Ma io conosco gay però molto felici. Chi l'ha detto eh? A lei, scusi? Vabbè, d'accordo, spero che lo siano. Perché però lei dice che non sono felici, di base non possono essere felici. Secondo me, appunto, i gay che ho conosciuto non sono felici. Li vedo che hanno tanti problemi, che sono molto nervosi, che hanno ansia spesso, sì, certo, depressione. Ma poi quelli che fanno questa promozione sono un 10%, la stragrande maggioranza dei gay, come da 2000 anni, si fa gli affari suoi, scusi la volgarità, senza rompere le scarpe, senza rompere i coglioni a nessuno, diciamola tutta, senza rompere, diciamolo un po' in romanesco, diciamolo. Lei dice importante che si facciano i cazzi loro, adesso lo dico così, cioè Sì, ecco. Lei i club gay li chiuderebbe tutti? Beh, secondo me sì. Vanno chiusi. Sì, lei sa che cos'è il Glory Hall? Purtroppo sì, non lo sapevo veramente. Questi buchi dove un uomo mette il suo organo, il suo pisello, e dall'altra sì, parte c'è l'ano di un altro che lui non conosce. Beh, c'è anche la bocca, diciamo. Vabbè, questi sono tutti i dettagli. La bocca l'ho imparato adesso dalla ricerca del nostro collega sull'Andos. Secondo lei, alla fine della discussione, i gay sono contro natura, diciamola tutta. Cioè, essere... Diciamola che l'atto omosessuale non è secondo natura. Non è secondo natura. È un mondo storto quello dove ci sono troppi gay, cioè un mondo malato destinato all'estinzione. Beh, in un certo senso la sua osservazione è giusta, perché non è una non possono procreare. Sì, cioè... Poi non so se conosce lo storico Zimmerman. Beh, no, non mi risulta. Lui Zimmerman disse addirittura che una delle principali ragioni della, sì, della caduta dell'impero romano, sì, fu proprio il selvaggio omosessualismo che si era sviluppato tra le legioni. E siamo, diciamo, in questa situazione noi, con tutte le leggi, la Cirinnà, i matrimoni, eccetera. Diciamo, siamo praticamente in questa situazione qui, in questo periodo, no? Temo che lei abbia ragione. Dopo il matrimonio omosessuale, dopo l'unione tra omosessuali, no? Le unioni civili, cosa ci può essere? Cioè, cosa viene dopo l'unione a tre, la poligamia? No, certo, in Olanda già c'è la poligamia. E... Per cui il pericolo è questo, dopo l'unione omosessuale c'è l'unione a tre. Ma sì, ma non solo. Con gli animali anche. C'è proprio il dogman, per cui ci sono gli uomini che si sentono cani, sì, e amano un uomo omosessuale. Al limite, se non abbiamo già superato la pazzia. Sì, sì. Tra l'altro i gay portano pedofilia in automatico. Guardi, non lo posso dire questo, però la tendenza è quella lì, perché loro desiderano, sono ossessionati dal sesso. Però cioè i gay, allora, i gay sono ossessionati dal sesso e hanno tendenze pedofile. Possiamo forse dirlo, sì. Ma guardi, c'è un libro, che questo l'ho trovato, sì, ha trovato The Male Couple, che è pubblicato 10-15 anni fa. Sì, che succede? Da Mac Wirter. Ma chi è tutta sta gente? Si può sapere, non me ne va. Che chi è tutta sta gente? Beh, che dico? Chi è? Può prendere a... basta, sono stato in silenzio a lungo. Può prendere atto che ci sono degli omosessuali a cui piace fare l'amore in quelle modalità lì, anziché citare il libro e Mac Wirter. Cioè vuole dire, scusi, ma chi se ne frega di tutta sta gente? Vuole dire, cos'è sta letteratura? Vuole dire, dottor Parenzo, che basta, ci sono che un sacco cazzo di omosessuali a cui piace prendere nel culo. Questa è la sintesi, certo, e non hanno problemi, ridono, sorridono, sono felici, fanno l'amore. E ha scritto nel libro Benz. Ma chi se ne frega? Che dice lei? Fai rispondere. Se ne fregano di quello che dice Benz con due A, il francese. Ma chi se ne frega? Vi ringrazio per la telefonata e vi auguro una buona serata. Vabbè, ma risponda dottor. Ma che devo rispondere? Risponda dottor Parenzo. Ma sono mezz'ora che sento, scusi se mi arrabbio, ma sento libri, cose, quello là, ma ho capito, si rassegni. Ai froci piace essere froci. Le auguro una buona serata. Arrivederci, sì, basta. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Glielo spello. Sì. A-A-R-D. Sì. B-E-R-G. Si rassegni. Ai froci piace essere froci. Le auguro una buona serata. Arrivederci. Sì, basta. Devo dire che hai fatto una buona chiusura, caro. Non è possibile, dai, non era più possibile andare avanti con queste cose. A proposito di tassisti, ricordiamo il mitico Cesare. Chiedo scusa anche il mitico, anche, ma che chiedi scusa? Chiedo scusa anche qua. Il mitico Cesare, credo fosse all'aria che tira, il mitologico Cesare. Io ho un nipote, 26 anni, stava senza lavoro. I sacrifici del padre, i sacrifici del nonno, i sacrifici della zia, del bisnonno hanno messo insieme una certa situazione e si sono comprati sto tassì. E lo fanno lavorare per 20 anni, perché il mutuo è ventennale. Se tu gli cambi le regole del gioco, ma chi lo paga sto mutuo? La si lotta, la si lotta, c'è l'iceberg, io no! Quando non posso usare la moto e devo prendere un tassì, e là Cesare, la casca l'asino. Pure io compro il giornale, vorrei... però. Come? Come ti chiami, scusa? Federico. Come? Federico. Pure io compro i giornali, Federico. Bravo. Che è peggio che andate notte. Ma che lundi? No. Scusa, a me mi dici mi casca l'asino, pure quando scrivi te casca l'asino. Vai all'edicola. Pazienza, non la mettiamo sul personale. Ma no, personale. Ma senti che casca l'asino, ma guarda l'asino casca. Allora. Pensa sì, lo prendi, lo prendi. Se la domanda è: il servizio può essere migliorato? Io ti dico sì. Perfetto. Il tassinaro può diventare più ricco e spietato del conte Montecristo? E io ti dico di sì. Cos'è se... il conte? Ma lascia perdere, guarda il dito, se guardi il dito non guardi la luna, è casino. Io ti dico, il tassinaro può diventare più ricco. Io ma ti che dico, me frega a me? Alla porca due, parla te allora. Alla ma Ube, se non c'ho la licenza, non va a far tassinato, se no viene da me, mi dai i soldi mia, i soldi di mio nipote, i soldi di mio zio, tutto il resto, e poi far tassinare! Rondolino, da quando esiste Uber le cose funzionano meglio. Rondolino ha la straordinaria capacità, come peraltro abbiamo noi, di farsi odiare da un sacco di gente. Sì, sì. E abbiamo qualcosa in comune col signor Rondolino. Io sono un utente, qualche volta prendo Uber, qualche volta prendo il taxi, ho verificato che da quando esiste Uber le cose funzionano meglio. Va bene, andiamo a Bari, Eugenio, vai. Eugenio. Buonasera a tutti. Dimmi. Allora, sta storia di Uber ci ha rotto veramente le scatole, veramente dei coglioni. Innanzitutto parla senza auricolare, però, amico mio, dai. Sì, vabbè, il problema è che sto guidando, ci sono le persone in macchina e mi stanno pagando anche con la carta di credito. Questa è la risposta a chi dice. Qual è il problema? Qual è il problema se ti pagano con la carta di credito? Che noi non siamo attrezzati, che non abbiamo l'app, che non abbiamo il pagamento con la carta di credito, non abbiamo i radiotaxi, non abbiamo gli mortacci vostri, perché qua ci avete rotto i coglioni. Noi siamo pieni di debiti. La dovete smettere, è una categoria tartassata, paghiamo le tasse, paghiamo l'IMS. Tartassata è vero, questo è vero, certo. Di sto stato di merda che ci ha rotto i coglioni. Eugenio, scusami un attimo, ma i passeggeri accanto gradiscono? I passeggeri per fortuna sono stranieri. And the pay cash or on the card? The pay cash on the card? Card. Sì. Quindi, allora... Sta storia, sta ma chi l'ha detto? Non è che non ce l'hanno tutti la carta di credito, non è che ce l'ha. Cioè, tutti lì che viene a Bari, noi l'abbiamo. A Bari è un'altra cosa, magari ce l'avete la carta di credito tutti, non lo so. Ce l'abbiamo tutti. Che ne pensi di Uber? Che ne pensi di Uber? Adesso arriva pure lì a Bari Uber, arriva lì a Bari. Sì, ma li facciamo il culo così poi, La guerra la vuole lo Stato, Cioè, in che senso? Se arriva Uber a Bari, che fate? La guerra? Guerra, c'è già guerra dichiarata. Questa è una guerra annunciata, ha visto tutti quelli. Io poi qua fai che c'è Uber. Cazzo, la mezza cassa me la vado a vendere. Ho la testa a mio figlio. Col cazzo lo Stato avrà più un euro da me. Non pagherò più un centesimo di tasse. È un appello che faccio a tutti questo. Cioè, che appello fai? Non ho capito. Perché lo Stato italiano non merita neanche un centesimo. Perché ci sta mandando tutti alla rovina. Lo Stato. Ma io non ho capito, perché cos'è che non tolleri del fatto che possa arrivare Uber? È il PD che c'era con questa cazzo di categoria. Che cazzo le devo fare? Le abbiamo rotto il culo a qualche mole di onorevole per caso. Vabbè, che c'entra adesso questo, Eugenio? Non ho capito. Perché il PD poi? Cioè, tu dici che il PD è dalla parte delle multinazionali, di Uber e questa roba qua? Le multinazionali vanno a pagare le tasse in Canada! Lo sapete questa storia? Sì, lo sappiamo. Non solo in Canada, in altri paesi, perché hanno la sede fiscale da un'altra parte. Brava, allora che cazzo fai a fare sta storia di Uber? Perché lo vai a mettere in Italia? Che vuoi da Uber? Amico mio, non però, è che l'hanno messo. Cioè, Uber esiste perché esiste un'altra modalità di trasporto che non è il taxi. Cioè esiste un servizio diverso che non è il taxi. Evidentemente se fanno poi i taxi... Tu sei una persona intelligente, ti ammiro tanto. Però mi devi dire a me, se la popolazione... Hanno pagato quelli intanto, hanno pagato gli stranieri là. Facciamo 100 corse su 100 taxi. Hanno pagato sti stranieri che stanno con te intanto? Certo, hanno pagato. Ma già sono usciti? No, ce l'ho ancora in macchina. Ah, hanno portato con la carta di credito. Abbiamo una tariffa fissa. Abbiamo fatto anche le tariffe fisse. Che fai? Aeroporto città, che fai? Aeroporto bar, un'altra tariffa fissa. Abbiamo accettato questo discorso. Quant'è la tariffa lì? Quant'è? Certo che avete accettato, ci mancherebbe pure. Paghiamo le assicurazioni il doppio del privato. Paghiamo tutto in più. È tutto questo che ricambia abbiamo. C'è stato il congresso dell'Ancia a Bari, dal sindaco De Caro, abbiamo tanto di cappello, siamo stati grandissimi. Sì, però abbiamo Eugenio, io voglio capire una cosa: se si presentano i signori di Uber là a Bari, che guerra fai tu? La guerra delle botte. Faremo ammazzate, perché non ci può. Ma ammazzate, amico mio, dai, su, ammazzate. Te lo dico chiaramente, che dicono gli stranieri? Sono impauriti là, gli stranieri che ti vedono così a colare. Ascoltami. No, ascoltami, io propongo al governo italiano. Che propone? Le licenze se le va a comprare il governo italiano. Sì. Se li compra il comune, che cazzo sia. A noi ci fa un contratto a tempo indeterminato. Noi i casi li diamo al comune e tu ci dai lo stipendio. No, su una cosa ha ragione questo ascoltatore, tassista, lavoratore. Cioè, chi ha investito nella licenza e l'ha comprata pagandola anche 200-250 mila euro, è giusto che venga indennizzato in qualche modo, perché altrimenti il suo capitale, che sarebbe il TFR dei tassisti peraltro, il suo capitale viene svilito. Ma spesso, come sai, questo hanno ragione però perfettamente. Sì, ma questa cosa qui spesso è una cosa informale, perché teoricamente ci dovrebbe... Ma come informale? Lui ha ragione, io credo che la concorrenza... aiuti il mercato, però queste persone non possono prenderla dove non batte il sole, nel senso che questa gente qua ha investito di tasca propria, quindi lui ha ragione a dire lo Stato ci deve risarcire, perché lo Stato gli ha dato la concessione per investire e quindi per prendersi la licenza. Poi la prassi ha voluto che questa licenza diventasse una sorta di pensione. Questi hanno speso 200.000 euro però per Eugenio investire. Quanto hai speso per la licenza? Pressa poco, 150, 180. e ce l'ho per 20 anni il mutuo e c'ho 4 persone a casa e sono monoreddito. Come cazzo a fare? Ecco perché tu uccide la guerriglia. La guerriglia? Sì, perché io sono pronto a fare qualsiasi cosa. Vabbè, Eugenio, ti saluto, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora ragazzi, fra poco sentirete le istruzioni per arrestare un politico. Siamo in tema, siamo in tema. Le istruzioni per arrestare un politico da parte del generale Pappalardo. È ritornato in pista il generale Pappalardo. Dice che bisogna arrestare i politici perché sono illegali. Pronto? Sì, buonasera, parlo col mitico generale Pappalardo. Sì, sono io, ma non sono mitico. Sono lei invece è mitico. Ecco, mi perdoni, io sono un cittadino qualsiasi e sono incazzatissimo. Io sono il 50% degli italiani che ahimè sono come lei. Com'è possibile, generale? Io non ho eletto nessuno, che questi delinquenti, che questo Parlamento abusivo sia ancora lì. Mi dica... ne abbiamo arrestato uno, ne dovremmo arrestare altri. Quanto prima ne arresteremo altri, perché sono tutti abusivi. Bravo, sono usurpatori. Questo Stato non esiste. Noi cittadini, è vero che possiamo arrestarli, sti politici? Io l'ho detto. C'è l'articolo 383 del codice di procedura penale che dice: il cittadino che sorprende un uomo che commette reati in flagranza lo può arrestare. Questi parlamentari sono tutti abusivi, usurpatori, vanno arrestati, per cui se lei prende per esempio un parlamentare in carica, lo blocca e lo porta dai carabinieri, lei lo arresta. Allora io se vedo Renzi, che cosa so io a Roma? No, Renzi non è stato eletto, attenzione. Allora io se vedo... Renzi si poteva arrestare quando era capo del governo perché era abusivo, perché era fatto da parlamentari abusivi, ma adesso che non è capo del governo, non essendo stato eletto, quindi essendo un cittadino qualsiasi, non gli possiamo fare nulla. Allora mentre io... possiamo arrestare Alfano, per esempio, allora possiamo arrestare Monti, ha capito? Quelli li possiamo quindi arrestare. Quindi io se vedo per strada uno di questi delinquenti io posso arrestarlo, e come faccio, generale? Allora cioè, lei dovrebbe farsi aiutare da qualche amico, perché è sempre un discorso che viene fatto, lo blocca, dice in nome della legge, lei è un usurpatore, usurpa delle funzioni politiche, è prevista la pena da 1 a 15 anni, e lei essendo il reato in flagranza io l'arresto, la prendo e l'accompagno in una caserma. I carabinieri? Lì naturalmente consigliamo, i carabinieri devono fare il verbale che lei l'ha arrestato, e dal il verbale, poi i carabinieri fanno quello che devono fare. Però io quello che le dico, siccome è un'azione abbastanza complicata da fare e che non posso fare, sono un cittadino, se lei ritiene che nella sua zona ci sia un parlamentare mascalzone che merita più degli altri di essere arrestato... Ma quelli sono tutti delinquenti, mascalzoni! Lo so, io le consiglio di mandarmi la sua email, sì. Diciamo come bisogna comportarsi per fregare loro, ma non essere fregati noi. Noi facciamo rispettare la legge, questi sono usurpatori e vanno arrestati, punto e basta. Naturalmente l'azione va combinata, coordinata bene, dopodiché noi la valutiamo, le mandiamo qualche nostro forcone, che noi abbiamo i forconi. Lo so, io sono informato. Le mandiamo qualche forcone e operiamo. Si va con questi, con i forconi, si va ad arrestare questi abusivi, questi delinquenti che ci massacrano di tasse e di tutto, abusivi. Esatto. Esattissimo, arrivederci. Arrivederci, generale. Il generale Pappalardo straordinario. Una cosa pazzesca, dai, ma fermatelo. Esattissimo. Ma com'è esattissimo? Esattissimo. Lei li può arrestare. Come lei li arrestiamo tutti. Ascoltami davvero, questo è molto. Noi mandiamo messaggi pericolosi alla gente. Io te l'ho detto fin dall'inizio, va chiusa ormai questa trasmissione. È pericolosa. È pericolosa perché se uno sente, si sintonizza in quel momento, c'è il generale Pappalardo che dice che ognuno di noi può arrestare i deputati. Ma tu ti rendi conto? Ma è una trasmissione. Perché, napoletano, ti prego, chiudi sta roba. Non si può più sentire. È bella anche la trasmissione. Sono le musichette, le sigle, le cose, la gente che chiama, i pazzi. Ma no, è da chiudere. Dai, basta. Ah, no, chiudere. Ma perché chiudere? Non ho capito. È da chiudere. È una trasmissione pericolosa, volgare alle volte, a tratti. No, solo, no, se oggi no. Lo sono stato, chiedo veramente scusa. Non accadrà che più. Palle. E chiedo scusa davvero. Se lo sono, però mi ha fatto arrabbiare quello lì. E vi chiedo scusa. Però è da chiudere, perché se uno sente il generale Pappalardo, ma gli viene, pensa davvero che si possa fare? Esatto, signor Parenzo. Raffaele da Viterbo, vai Raffaele da Viterbo, il generale Pappalardo. Mi fa impazzire il generale Pappalardo, non so perché ci crede veramente. Allora, cioè, secondo me gli è preso qualche cosa di dai, sì, uno no, può credere preso. Che bisogna arrestare i parlamentari. No, va bene tutto, ogni tanto ci sono dei delinquenti, ogni tanto ci sono dei farabutti, ogni tanto ci rubano il futuro. Ecco, utilizzo questa espressione, ci rubano, non lo voglio dire. Perché l'ho detto, Parenzo? Perché l'ho detto? Non so, ci rubano. Perché l'ho detto? Ci rubano il futuro, un'espressione orrenda, ci rubano il futuro. Esattissimo, molto grillina, molto grillina. Isolate la parola esattissimo. Esattissimo, bravo, esattissimo. Raffaele Viterbo, vai. Non sbaglio. Sì, ciao, senti, allora, io sono un camionista. Sì. E mi dissocio da quello che ha detto il mio collega lì per quanto riguarda le persone gay. Mi dissocio senza dubbio. E vabbè, non c'è bisogno, non è che i camionisti appartengono, come dire, ad una categoria per cui bisogna dissociarsi come se fosse un partito. Mi sì, dissocio. Sì, ma quello è praticamente matto, secondo me. Comunque, volevo dirti, secondo te, visto che tu istigi tanto, chiedi ai tuoi interlocutori, ma secondo te andresti lì al Parlamento a fare e a dire? Perché secondo te sarebbe tanto strano che finalmente gli italiani decidessero di essere finalmente persone e non più pecore? E dunque che cosa dovrebbero fare? Spiegami. Fare, andare lì e prendere a calci nel culo tutti quanti. E dunque poi instaurare effettivamente un governo scelto veramente dal paese. Sì, come? Scelto dalla piazza, da chi? Dalla piazza? Dalla piazza? Ma non solo dalla piazza, dalle migliori menti che abbiamo qui in Italia. Ma stai scherzando? Noi abbiamo fiori di menti, gente che veramente meriterebbe di stare al governo, e non gente che non ha nemmeno un diploma per fare il ministro della sanità. Ma stiamo scherzando? Dunque, che bisognerebbe fare? Prenderli a calci? Fare? Dimmi, che cosa possiamo... Tutti, indistintamente, ma non dal partito, da quello che si è, perché io sono partito, che a me non me ne frega niente della politica. Però sono una manica di cialtroni, gente che... Prenderli a calci, cioè sostituirli col potere del popolo, che non si capisce bene chi lo sceglie. Chi lo sceglie? La piazza? Chi lo sceglie? No, lo sceglieranno delle persone. Ma chi delle persone? Ci sono le elezioni, c'è la democrazia, non diciamo cazzate. Raffaele, Angelo, Novara, dai, concludimi, dai. Chiudimi questa trasmissione, Angelo, forza. Volevo segnalarvi come Fronte Liberazione Animale. Non ho capito, scusami. Non ho capito. Fronte Liberazione Animale. Fronte Liberazione Animale? Ma cos'è? Un altro praticamente ha fatto un post, poi ha tolto la foto con la pistola e ne ha messa un'altra 4 ore fa. Comunque il testo è uguale, dove praticamente dice che bisogna agire con la forza verso chi la pensa diversamente da loro. Fronte Liberazione Animale, bisogna agire con la forza contro chi la pensa diversamente da loro. Sì, questo avrebbero scritto. Vabbè, grazie per la segnalazione. Arrivederci, a domani, ragazzi. Ce la dobbiamo andare. Esattissimo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Che pisciata. Radio 24. Libera la voglia di fare. Glielo spello.